Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru gu qua qua. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru gu qua qua. Con tanti galli. Ragazzi, mi chiamate Parenzo, che è un'ora e mezza che cerco di contattarlo e non ci riesco. Adesso facciamo il numero. Ecco, ecco qua. Niente, non risponde. Ma io che devo fare? Non lo trovo da un'ora e mezza, da due ore. Mi aveva detto sì che c'era, non c'era, la sua solita incertezza. Oggi sono giornate particolari, non so che cosa c'è, il capodanno ebraico, il nuovo anno. Adesso non voglio dire niente per non offendere. Vabbè, va, adesso ci penso io. Sei la gatta ed io il capo. Intanto abbiamo capito ieri, cari ascoltatori della Zanzara, da dove viene il soprannome più famoso d'Italia di una delle donne politiche più conosciute, Daniela Santanchè, la pitonessa. Tutti pensavamo che fosse una cosa detta da Berlusconi, e era stato il Foglio a rivelare questa cosa. In realtà non è così, non è stato Berlusconi, non è stato il Foglio. La pitonessa viene da una vecchia barzelletta che molti conoscevano, io no. Una barzelletta che qualcuno dice sporca, ma in realtà, insomma, per come siamo abituati noi qui alla Zanzara, è una barzelletta normalissima, una barzelletta che si raccontava negli anni 80, si dice, io ti ripeto, non la conoscevo assolutamente. Ce l'ha rivelato l'ex marito della Santanchè, Paolo Santanchè, chirurgo plastico. Le piace come nome la pitonessa? Ma deriva da una vecchia barzelletta. Cioè? Lei non si ricorda tanto le barzellette, questa è l'unica barzelletta che si ricordava e che raccontava sempre. C'è per cui probabilmente ha continuato a raccontarla anche in tempi più recenti e da lì è venuta fuori. Cioè è una barzelletta che raccontava lei? Sì. Ah, non Berlusconi, cioè l'unica barzelletta. No. L'unica barzelletta che racconta Daniela? Sì, è quella della pitonessa. È quella della pitonessa. Come faccio a raccontare, carina. E ieri l'abbiamo raccontata, la barzelletta della pitonessa, e siccome noi non siamo grandi raccontatori di barzellette, se c'è qualcuno veramente bravo, la racconti lui oggi bene, questa famosa barzelletta ormai sulla pitonessa. Vabbè, Paolo Santanchè, che è stato marito della Santanchè per tanti anni, dice anche che usare il suo cognome è stata una concessione che è stata fatta in sede di divorzio. E che è una cosa un po' stravagante, perché una donna fiera del suo essere donna, eccetera, eccetera, non deve usare, dovrebbe usare il suo cognome. È una roba un po' stravagante per una sostenitrice delle donne, non avere piacere di portare il suo cognome. Io sono un amante della coerenza, che è una virtù in via di estinzione. Intanto c'è qualcuno che non sale sul carro del vincitore, e bisogna dare l'onore delle armi e concedere l'onore delle armi, per esempio, a Rosy Bindi. Rosy Bindi, la quale è fieramente anti-renziana e resta anti-renziana. Dunque, giù il cappello, devo dire la verità. A me non piacciono questi cambi di casacca repentini. Poi uno può cambiare idea e chi non cambia idea è un cretino, per carità, va bene tutto. Però una cosa così repentina mi fa anche un po' schifo, devo dire la verità. Mi fa schifo un cambio di idea così repentina su una persona. Anche se si tratta di politica, tutto è possibile, in politica tutto è lecito. La Bindi dice: Franceschini ha fatto di tutto per non far partecipare Renzi. Chi lo sta sostenendo adesso, vedi Franceschini, ha cercato di tutto per impedirgli di partecipare. Quindi io credo di aver dato un grande contributo a Renzi. Spompato? No, dice Bersani, ho fatto qualche flessione. Non è spompato come dice qualcuno. No, ho fatto un po' di flessioni lì dove. Se volete ve ne faccio qualcuno. No, non esageriamo. No, non sono abbastanza in salute. A me annoiano ormai tutti i discorsi che riguardano i 5 Stelle, è talmente irrilevante, irrilevante, secondo me, lo dico senza offesa, è irrilevante, come dire, la presenza in Parlamento, al di là poi dei progetti di legge presentati, dei 5 Stelle, irrilevante, che chi esce, chi non esce, tanto un governo con i 5 Stelle non si farà mai. Per esempio adesso c'è questo Orellana che ha scoperto che Grillo impone la sua legge anche attraverso magari i portavoce o quelli che governano l'ufficio stampa dei 5 Stelle e adesso se ne vuole andare, potrebbe andarsene, no? Potrebbe, per aver detto sì, ma noi dobbiamo guardare altrove, potremmo fare un accordo, eccetera eccetera. Sentite il capogruppo al Senato che si chiama Morra, Orellana ha sbagliato. Noi non siamo sotto un dittatore, noi siamo nel dialogo a disposizione di tutti i cittadini e secondo me il senatore Orellana ha sbagliato. Ma lo vogliamo richiamare questo imbecille? Sentiamo se c'è, va. Sì, chi è? David? Oddio, sono impegnato, ti ho detto oggi, non posso! Le tue solite cose ebraiche, come al solito. Che festa sono c'è impegnato, oggi? Basta, saluti, capodanno ebraico. Ti ho detto che sono impegnato, arrivederci. Ma quali feste grazie, ci sono? Saluti tutti. Basta, io questa volta veramente non ne posso più, adesso lo licenzio sul serio. Mando questo cavolo di contratto che ha dall'amministratore delegato e vediamo, eh. Mi devo sfogare. Padre Fedele Bisceglie è con noi, ex parroco, perché l'hanno cacciato via dalla chiesa. Buonasera, padre. Buonasera a voi. Non mi ha tolto nessuno perché io sono sacerdote in eterno. Vabbè, ho capito, l'hanno cacciato perché l'hanno condannato per stupro, padre Bisceglie. Sì, diciamo ma questo non la chiesa. No, è la chiesa. Ha condannato la magistratura. È la chiesa, però l'ha svestita, come dire, no? Sì. Le ha tolto la tonaca. No, sospesa di vinis. Beh, che è peggio ancora, sospesa di vinis. Allora, andiamo con Berlusconi. Allora, Bisceglie, sì, innanzitutto, che vuole fare come quelli che dicono mi faccia sta domanda e l'altra no? Vabbè, io l'abbraccio. Mi dica lei. Scusi, padre, io voglio dire, ma è vero che lei vuole accogliere Berlusconi nella sua comunità? Io ho scritto una bellissima lettera, se lei mi dà la possibilità di leggere un minuto la leggo. Ma quanto è lunga sta lettera? Una paginetta, un minuto solo. Mi dirà però, cioè, mi vorrà consentire questa cosa, padre Bisceglie. Lei è stato condannato per stupro, giusto? Sì. Quanto ha preso, scusi? Stupro nei confronti di una suora. 9 anni e 3 mesi. 9 anni e 3 in secondo grado? Sì, primo e secondo grado. Primo e secondo grado. Cioè, ormai siamo agli sgoccioli lì, potrebbe pure finire in galera lei. No, ma non ci vado in galera perché ho 75 anni. Beh, cioè, lei perché voleva Berlusconi con me. Appunto, dico. Siete praticamente nella stessa situazione adesso. Lui non è ovviamente condannato per stupro, però ha preso più o meno i suoi anni. Padre Bisceglie, perché lo vuole con sé lei? Perché? Mi spieghi, mi legga questa lettera. Un missionario, un sacerdote. Sì. E vorrei, non redimere, ma vorrei parlare con lui da sacerdote. Ecco perché mi sono rivolto a lui con delle parole molto belle. Per esempio? prima, durante e dopo la cerepresentenza della Cassazione, sì, si è sollevato un polverone. Sì. Dice che neanche le morte degli ultimi papi hanno avuto tanta risonanza. Ma questa è la lettera che lei ha scritto? Sì, si sono invece chiusi ermeticamente nel cassetto i drammatici argomenti, disoccupazione, povertà, eccetera. Vabbè. Poi? Tempo fa, però, un vero innocente, per giunta a Dio, è stato condannato ed ha preso una croce e poi è morto. Se la sentenza condanna di Berlusconi, come dice lui, è allucinante e fondata sul nulla, quella di Cristo non è qualificabile. Ah, era Cristo. Caro Silvio, dobbiamo essere concreti. Sì? Se sei innocente, abbraccia il Vangelo. Solo? Il solo che ti potrà dare serenità. Sì. Colui che scrive è un sacerdote missionario, attenzione qua. Sì, attenzione. Calunniato da una suora. Ma è calunniato. Sei pseudo stupri mai pensati. Bisceglia, condannato. I della chiesa, fratello mio, sono nella chiesa, non sono fuori. Vabbè, allora. Sono trascorsi 7 anni e 8 mesi. Cosa dovevo fare io? Prendere la lopara, massacrare preti, frati, suori, vescovi e cardinali? No. Ho preferito prendere il crocifisso in mano e sono sereno. Senti, addirittura i miei avvocati hanno scovato che dopo i 6 pseudo stupri miei ne ha avuto altri 3 che sono stati annullati. E questo fascicolo. Vabbè, è stato padre Bisceglia, come si chiude? Stato portato avanti. Come si chiude sta lettera a Berlusconi? La lettera a Berlusconi si chiude in questa maniera. Ricordati che se vuoi essere felice, deve essere povero, i tuoi soldi non hanno nessun valore per entrare in paradiso. Sicuramente accoglierà. Ti lascerai ad altri. Ricordi che è più facile che un cammello entri per la cuna di un ago con un ricco in paradiso. Sì. Dai Silvio, scendi in Calabria, facciamoci compagnia, affida alla magistratura infallibile, a Dio, perché la magistratura umana spesso fallisce. Ed allora perché fare la guerra ad incitare al disordine? Sì. Ritorniamo a Cristo. E dunque? Reciteremo insieme il rosario. Scendi in Calabria, staremo insieme, reciteremo la corongina della Divina Misericordia e vinceremo le vere ed uniche elezioni, la salvezza dell'anima e, perché no, la nostra santificazione. Mandategliela a Berlusconi. Eccoci qui, 800 24 00 24. Parenzo assente per adesso, ma lo pizzichiamo oggi, altrimenti mi incazzo come una bestia. Abbiamo padre Fedele Bisceglie con noi, ex parroco, anche se lui dice di essere parroco, perché parroco ci resta per sempre, condannato a non so quanti anni per stupro nei confronti di una suora. Vuole invitare Berlusconi nella sua comunità. Dov'è in Calabria questa comunità, padre? A Cosenza. La grande Cosenza. Beh, lei è addirittura un ultras del Cosenza, il paradiso dei poveri. Ma come si organizzerebbe la giornata ideale di padre Bisceglie e di Berlusconi al paradiso dei poveri, padre? L'abbiamo parlato anche ieri sera. Tutte e due la mattina a pregare, sarebbe la fine del mondo veramente nel senso più bello della parola. Colazione, poi incontro con i poveri, aiutare sveglia i poveri, che ora, i bambini abbandonati, i bambini disabili, poi il pranzo e poi nel pomeriggio una piccola siesta e poi di nuovo la preghiera, come dicevo, il rosario. Ma tu pensi Berlusconi assieme a me? Lui è innocente, così dice lui, io ci credo, ed io innocente, lo posso assicurare, perché la magistratura ha scritto nei miei confronti una pagina allucinante. Vabbè, Bisceglie, lei è stato condannato a 9 anni per stupro, però lasciamo per lei, non ha mai toccato una donna in vita sua? Se lei fosse il mio confessore gli risponderei. Andiamo, perché io sono anche un giornalista, non andiamo. No, però scusi, Bisceglie, lei peccato, ha toccato chi è senza peccato scaglia la prima. Lei non la può scagliare. No, ma io mica son prete, ma però. Noi parliamo della suora, ma mica della suora. Mica ho fatto la suora mai, ma mai la suora, mai. Una cosa del d'accordo, genere. Ma lei ha mai toccato una donna in vita sua? E un'altra volta. Ma come un'altra volta? Se fosse il mio confessore risponderei. Ma che c'entra? Lei è sospeso a divinis. Bravo. A divinis. Ormai è praticamente un laico. Diciamo no, la verità. No, non è vero. Vedi che avete confuso. Sospeso a divinis. Sospendere che significa? Sospendere, cioè rimane. Vabbè. La mia caratteristica. Però Bisceglie, mi scusi, però, un attimo. Ma non le mie funzioni, se già tanto ne posso spiegare. Però, tutto qui. D'accordo. E questa suora si chiama Sortaria. Sì. Deve rendere conto a Dio. Se vabbè, ma quello è un altro discorso. Non può morire con questo macigno nel cuore. Però scusi, lei, i magistrati che hanno fatto? Hanno I magistrati non sono Dio, perciò ho detto a Berlusconi. La magistratura non è infallibile, solo la magistratura. Ma anche per lei sono tutti. La magistratura umana spesso fallisce, come nel mio caso, e credo anche. Cioè io sono condannato per stupro, sono innocente come Berlusconi, lei dice. No, io veramente come Berlusconi non lo dico, io sono innocente. Berlusconi dice che è innocente, allora mi affido a lui. Ma non lo dico io, non sono giudice di nessuno. Io sono innocente di sicuro. Scusi, Marco. Questa suora ha fallito, ha fatto più male lei che un blotone di armata, diciamo rossa. Però scusi, ha fatto veramente male. Bisceglia. Nella chiesa di Dio sì. Ha fatto un male, ha crocifisso un altro sacerdote. Sì, però scusi un attimo, Bisceglia, io le chiedo ancora. Lei ha mai avuto delle tentazioni? Le tentazioni l'abbiamo avute, l'ha avuto Gesù Cristo, fratello mio. Passiamo oltre. Dopo le tentazioni, lei quando era nel pieno delle sue funzioni sacerdotali, ha mai toccato una donna? Ha mai avuto rapporto? Ma no, ma io glielo chiedo perché è importante. Io sono a favore, presidente. Ricordi che io sono anche un giornalista, non sono l'ultimo arrivato, io ho 5 lauree. Vabbè, che le devo dire io se ho 5 lauree? No, non ci casco nella sua trappola. Ma quale trappola? Quale trappola? Mi deve interrogare su altre cose, non sulla cosa intima personale. No, invece a noi interessano molto le cose intime e personali. Comunque, no, vabbè. No. Scusi, dove dormi? Lo dico al confessore. Lo dico, dove? Ma comunque lei mi ha già dato una risposta, altrimenti mi avrebbe detto no. Altrimenti mi avrebbe detto no. Io no. No, io ho detto che io senza peccato scaglia la prima. Appunto, chiesa. Ma lei ha fatto come tutti quanti gli altri. Appunto, ma guardi che come non c'è lei? Niente. Ma assolutamente. Ma io mica faccio il prete, però. Perché il prete soltanto deve fare il bravo. Ma allora è giusto che il prete possa avere dei rapporti sessuali, sì o no? No, non è giusto. Non è giusto. Perché il prete fa dei voti e li deve rispettare, basta. E si dovrebbe sposare secondo lei? No, è libertà. Una volta si sposavano i preti, fino al IV secolo. Appunto, e allora? E allora dopo è venuta la chiesa e ha messo. Ma è giusto tornare no? È giusto tornare a quella roba lì che i preti si possono sposare, sì o no? Io penso di sì, sarebbe una cosa buona. Così si risolvono anche i problemi sessuali che comunque esistono, perché anche i preti hanno la loro, no? I loro desideri. Tutti questi scandali che succedono, pedofilia, come gli è bello, che io condanno. Comunque è anche vero che ci sono delle telefonate. È vero anche che ci sono delle telefonate tra lei che sono comunque imbarazzanti. Vabbè, lasciamo perdere però la vicenda della suora. Lei è stato condannato, lei dice che è innocente, che dobbiamo fare? Adesso non vogliamo riaprire il processo. Ma scusi un attimo. Non ho paura di nessuno. Ma Berlusconi dove dormirebbe lì alla sua comunità, al paradiso dei poveri? Su che letto? Una brandina, no? Ma come una brandina? Ma Berlusconi può andare su un momento a dormire su una brandina? Fratello mio, che vuoi fare? Un letto, gli diamo un letto particolare. Berlusconi è un figlio di Dio, Ma non è che uno può passare dal letto di Putin alla brandina di Padre Bisceglia al paradiso dei poveri? Abbia pazienza. Berlusconi c'è 76 anni. Quanto vuole campare? Beh, no, ma adesso noi gli dovremmo... No, non glielo dico io, 10-20 anni. La nostra meta è il paradiso. Ma sa che significa se Berlusconi si fa santo? E dunque, potete l'immagine Berlusconi santo. Dunque, secondo lei la soluzione è Berlusconi che praticamente prende quasi i voti, non so come dire. Che... Si deve prima convertire e poi prendere i voti. Perché... Beh, ma lui insomma, dice di essere religiosissimo, no? Sì, molto, molto religioso. Molto religioso, però nella pratica dovrebbe cambiare un po' il sistema. E perché no? Sant'Agostino non era un peccatore, San Paolo non era un peccatore, tutti quanti siamo peccatori, ci possiamo convertire e farci santi, sarebbe veramente bello, se non scende in Calabria sarà un avvenimento unico. Ma lei l'ha mai conosciuto Berlusconi, padre Bisceglia? No, l'ho visto da lontano. Da lontano, da lontano. Però la ammiro per la sua capacità, per la sua... Però scusi un attimo, padre Bisceglia, lei ammette che sarebbe imbarazzante che uno, condannato pure in primo grado per la vicenda di Ruby, condannato in via definitiva per la vicenda di Mediaset, va a espiare la sua pena, magari ai servizi sociali, in una comunità di uno condannato per stupro. Adesso, oggettivamente... Bellissimo, bellissimo. Ma come bellissimo? La condanna, noi dobbiamo riflettere una cosa, la condanna umana non è l'ultima arrivata. Non è la definitiva è lassù. Lei dice no, lei dice non conta. Che noi possiamo scherzare. Non conta un cazzo, dice lei. Non conta un cazzo, dice lei, quella umana. Brava, brava, brava, brava. Non conta niente. Bisogna avere fede, se no io dovevo prendere la lupara, andare verso questa suora, sparare a lei, alla madre superiore, alla madre generale, al vescovo. Perché ha avuto questa tentazione lei di andare a sparare alla suora che l'ha accusata? Mai avuto, ho preso il crocifisso in mano e sono sereno. Ecco, questo vorrei trasmettere a Berlusconi, non aver paura, e gli scriverò dopo il 9 di settembre, scriverò ancora a lui. Vabbè, comunque, padre Bisceglia, qui la situazione è complicata, mi sembra difficile. Ma no, che semplice. È semplice, dice lei. Ma io lo invito a affidarsi a Dio, affidarsi a Dio, dice lei, affidarsi alla Ho capito, perché... ma uno non può dormire su una brandina. Poi che mangerebbe lì Berlusconi? Scusi, che cibo, che senti, cibo Giuseppe, c'è? Giuseppe, ti chiami tu. Sì, Giuseppe. Giuseppe. Che si mangia lì? Che San Paolo, scusami. Sì, sì. Era sulla via di Damasco e andava per catturare i cristiani. Gesù Cristo l'ha fulminato. Ed è diventato un apostolo. Non può fulminare pure Berlusconi. Ma lui, e la Pascale dove la mettiamo? La compagna che c'ha col cagnolino? La base se ne va a casa, perché può essere... un trisavolo Berlusconi, se ne va a casa a cercare una persona, un'anima gemella, giovane come lei. Proprio lei, però proprio lei, Biscegna. Sì, pur... no, la consiglierei proprio, no? Lì non si tratta di amore, ben altra cosa. Lei dice, Sì, ma io ho un'esperienza, io ho 50 anni di sacerdozio. E dunque? Amico. E dunque? Hai capito? Ma non mi dica, non mi dica che un medico, ma non mi dica Bisceglia per il mondo a trovare i poveri nel terzo mondo. Però Bisceglia, non mi dica che lei non ha mai desiderato una donna giovane. Oh, desiderato, ho detto, desiderato, padre, desiderato. Ma desiderare, intende, se ho fatto il voto di castità vuol dire che abbiamo questo. Ma lei non l'ha mantenuto. Sono voti naturali. Ma non l'ha mantenuto. La donna è fatta per l'uomo. Ma lei non ha mantenuto il voto di castità. Come? Non l'ha mantenuto il voto di castità lei. Come sei curioso però. Io sono molto curioso. Lei non l'ha mantenuto, su dai. Ma se ne dicono di tutti i colori su di lei, dai, ma è normale. Ma le possono dire quando le dicono, carissimo amico. Io devo rendere conto a Dio soltanto e basta, agli uomini no. Io ho sempre rispettato le donne, perché ho visto nella donna prima la Madonna e dopo mia madre e mia sorella. Sempre rispettato. L'abbraccio, padre. Ti abbraccio, auguri. Vai, dai Berlusconi, vieni da me, che ci faremo santi. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Io peraltro sono una pitonessa e quindi non appartengo né ai falchi né alle colombe. Qui sulla strada. Sei ancora a casa, Simo? Dove passano quei passi amari. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Guarda che non vorrei ingoiarla di un sol boccone. Dai, balconi, e lasciano cacare i cani. Rosy Bindi resta tutta d'un pezzo. Con Berlusconi non caleremo nemmeno le maniche. Tanto viviamo gli spettri. Berlusconi, l'invito della gente è di non calare le braghe, proprio questa frase. Ma neanche le maniche, cioè, per quanto mi riguarda, guardi, per essere ancora più chiari, se ci fosse qualcuno che fa il furbo, come l'hanno fatto per la presidenza della Repubblica, questa volta finisce pure il Partito Democratico. Che mi fa pensare a casa. Brucia quel tuo sorriso che mi fa. Titoli del TG3, Parenzo sempre assente. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Tesa vigilia del G20, Obama, Mosca deve capire che non è possibile che Assad riottenga legittimità a Putin, il Senato USA sta avallando un'aggressione. Lettere e risultati del governo confermano che bisogna andare avanti per il bene del paese, sono ottimista, ho il dovere di essere determinato. Decadenza di Berlusconi, primo scontro nella giunta per le elezioni sui tempi del dibattito, il PDL, siamo pronti a tutto, Alemanno ospite del TG3. Epifani, una crisi non ha senso, sulla decadenza non cambiamo idea, Franceschini, le minacce PDL danneggiano il paese, Veltroni, Renzi mi convince. Il senatore Orellana, sono pronto a lasciare il gruppo 5 Stelle, alleanze con altri partiti sono possibili, tra i grillini giornata di insulti sul web. Le minacce di una crisi di governo spaventano la borsa, Piazza Affari la peggiore d'Europa, crescita l'Europa va, l'Italia ancora ferma. Convalidato è il fermo dell'uomo accusato di aver strangolato Marilia. Per il DNA è lui il padre del bimbo che la ragazza portava in grembo. Nuovi indizi contro di lui. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte. Si siccome David Parenzo mi ha rotto i coglioni con questa storia del fatto che non si lavora quando ci sono le festività, io lavoro sempre, me ne fotto le festività, le cose religiose, me ne frego totalmente. Adesso lo voglio fare veramente incazzare. E gli rimetto in onda una delle performance più straordinarie della storia della Zanzara. È un personaggio che voglio anche rispolverare. L'altro giorno sono andato a Bisceglie e mi hanno detto: cavolo, dovete richiamare per forza, lo dovete richiamare sempre, dovete chiamare sempre Gaetano Saia. Godetevi questi 2-3 minuti, la gente inorridirà, la gente dirà che siamo delle bestie, degli animali, la gente dirà che chiamiamo dei mostri, ma chi se ne frega. Sentite che battaglia. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Gaetano Saia? No. Buonasera. Buonasera, no. Buonasera, oh, buonasera, signor Giuseppe Cruciani, a lei e a tutta la Zanzara. È il Batacaro, il Batacaro, ma lascia chiamato. L'amico di Cento, perché non glielo dici? Perché non glielo dici le truffe che faceva lei il suo editore? L'amico l'amico di editore Gian Gaetano, truffatore, diglielo. Io non sono Gaetano, chi? Le faceva il tuo editore. Senti, criminale. Allora, sulla vicenda del giornale che ho diretto, io mi sono dimesso a gennaio. No, vergognati, vergognati, cretino Patacaro, vergognati, vergognati, Patacaro, Patacaro, cretino. Ma di che state parlando? Sta parlando perché il signor pederasta Finocchio, no, signor Saia, scusi. Lei mi pagherà la casa. Lei mi pagherà 30 anni di mutuo, Patacaro. Ciascio aveva definito gli uomini in 5 categorie. Uomini. Patacaro, un attimo. Ruffiani e qua, tu sei papè, non sei neanche nelle 5 categorie di sciaccia. Che cos'è papè? Papè, che vuol dire papè? Papè vuol dire proprio nessuno. Nessuno, scusi, niente, signor Saia, lei è io il capo. Io mi sono tirato fuori un'insinuazione gravissima, Patacaro. Ma nessuno, Patacaro, scusi. Non è un mio amico, non è un mio amico il dell'editore Caso, non è un mio amico. Ma di che state parlando? Non è un mio amico, vergognati, mi sono dimesso. Ma di che state parlando? Io mi sono dimesso, vergognati. Ma di che state parlando? Sta parlando del mio ex editore, il signor Caso. Ma chi è? Che ha avuto una vicenda giudiziaria non indifferente per un crack clamoroso, una truffa che qual ha fatto è? E io, ex editore del Clandestino, io mi sono dimesso 3 mesi prima che arrestassero quel signore che con me non ha nulla a che fare. Patacaro, Saia, sei un Patacaro, allora, vergognati, Patacaro. Sono un ruffiano pederasta fino a sei. Io ti querelo e mi rifaccio la casa, Patacaro. Dico a mia moglie. Allora fai pure questo, Patacaro. E ti faccio la scorreggia e ti sbianco i capelli, come disse Bocchi a qualcun altro. Ma lei è la gente biancare i capelli, perché so che ti travesti la sera, Parenzo. Scusi, Saia, lei è il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Ma questo è un poveretto. Ma è il segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Il DM sta per Demente Nazionale. Breaking News. Flavia Pennetta batte Roberta Vinci per 6-4, 6-1 e conquista così la semifinale degli US Open di tennis. La zanzara stronza. Vabbè. No comment su questa cosa, No comment. 800-24-00-24. Non commentiamo che è meglio. Io non capirò un cazzo, sì, caro Marco, però sì, qui ci sarebbe da discutere fino all'infinito, altro che no comment. Ormai è tutto degradato. Sì, è tutto degradato, lo dico io, è tutto degradato, te credo. Certo che è tutto degradato. Lo dico io che è tutto degradato. Che non sono altri. Sì. Questi sono dei cornuti. Così, questo potrebbe essere una cosa appropriata. Questa è una cosa appropriata. Io pensavo che fosse successo, fosse scoppiata la guerra in Siria, Cristo. Pensavo alla guerra in Siria. Pensavo che cazzo ne so. È scoppiata la guerra in Siria. Cioè, breaking news. Cazzo, è scoppiata la guerra in Siria. Ancora a casa? Sì, noi siamo qua, Finché vogliono siamo qua. Alfredo da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, prima che dico quello che devo dire, hai la mia solidarietà. che su quello che sull'episodio che è successo proprio ora. Che è successo? La mia solidarietà, perché quello, cioè, non si può, ti dicevo a te di non essere neanche nella categoria dei 5, ma lui mi sa che non c'è proprio. Comunque io volevo dire appunto di padre Bisceglie. Cioè, con questo modo, questo fare spoccioso, io ho 75 anni e in galera non ci vado, che grazie alla minchia che non ci vai in galera. Cioè, questi sono i preti pentiti, questi sono quelli che fanno allontanare dalla chiesa. Alfredo, non è mai stato un prete a mio vedere, perché se era un prete a quest'ora, dopo essere condannato per stupro, non sarebbe stato qui alla Zanzara a parlare, ma sarebbe stato, recitavo un mia colpa con Dio, non questi modi spocciosi. Cioè, queste persone non si può chiamare. Andando, signor Cruciani, devo dire, cioè, l'hai chiamato ancora Don. Don glielo puoi togliere, queste non sono. Vabbè, donne. Io padre l'ho chiamato, Don, padre uguale, insomma, non stiamo a vedere i nomi, le cose, dai. Sì, però voglio dire, cioè, quel modo di fare spoccioso, cioè, io ti ammiro perché gli hai fatto dire peccato, che è un peccatore, perché tutti siamo peccatori nella faccia della terra. Però che lui dice, io non ci vado in galera perché ho, bello, a voce piena, bello, io non ci vado perché ho 75 anni, io ti volevo prendere era 30 anni fa, volevo vedere se la suora era mia sorella, se non dipendeva ti scippava la testa, cioè, hai capito il com'è che si dice scippava la testa? Ma che dialetto è questo? Sì, ma che cos'è, calabrese o siciliano questo? Questo è siciliano, questo è siciliano, no, tanto per chiarire, sì. Sì, io sono siciliano di Agrano Catania. Ho capito, figlio mio, abbia pazienza. Questo qua ha stuprato una suora, perché così hanno... Sì, due gradi di giudizio. Due gradi di giudizio, però dice di essere innocente, che dobbiamo fare? Sì, però lui dice la giustizia è divina, ma uno che aspetta la giustizia è divina, ma se ne va alla radio tutto spocciato e dice io non vado in galera perché ho 75 anni, non dice... lo sa dire, cioè parlava in maniera anche più calma, più invece no, questo qui è proprio arrogante. Io non ce l'ho con Berlusconi assolutamente. Lui, ma lasciamo perdere Berlusconi, lei si è indignato perché ha sentito parlare qui padre Bisceglia, condannato per stupro, che noi abbiamo chiamato e ce ne freghiamo del fatto. Vabbè, ho capito, siccome la gente mi scrive non dovevi chiamare uno condannato per stupro, io me ne fotto totalmente, l'ho chiamato lo stesso. Dovevi chiamarlo, anzi hai fatto bene che gli hai fatto dire, Ma io l'ho chiamato perché questo qua ha invitato Berlusconi in Calabria, capito? Che sì, è abbastanza. Fanno click. Io ho votato tantissime volte Berlusconi, non sono uno di quelli che qua. Quando Berlusconi è stato condannato, tutti no, io non l'ho votato, io non l'ho votato. E poi è salito per virtù dello Spirito Santo. Tutti l'hanno votato perché tutti hanno il ritorno, è normale, se non prendeva quei voti. Però il discorso è un altro, che questo qui viene, cioè non solo è condannato in due gradi di giudizio, non solo è un don, era un don. Cioè, ma uno, cioè, ma queste sono le classiche, ma vedete parlare. Ho capito, Alfredo. Alessandro Davarese, ciao Alfredo. Alessandro Davarese. Ciao. Eccomi. Allora, sono sulla stessa linea di Alfredo. Cioè, per me è veramente una cosa vergognosa quello che ha fatto lei questa sera. Cioè, ma che ho fatto? Persona... Ma che ho fatto, Alessandro? Ma lei non ha rispettato il dolore di una persona. Ma sa cosa vuol dire essere stuprata da una persona? Ma io mica gli ho fatto. Verse l'abito che vestiva questo signore. Cioè, c'è qualcuno che di questo atto soffre. Ma che vuole da me? Voglio solamente dirle che lei questa roba qui ha fatto una porcata. Ma quale porcata? È una schifa. E quello che mi fa più incazzare, mi faccio dire, è che c'è qualcuno sopra di lei che queste schifezze gliele fa fare. In che senso? Io non so. Qualche, ci sarà un direttore di e allora qual è il problema? Perché non posso chiamare. Non dovrebbero fargliele fare queste cose. Ma chi lo decide? Non lo decido io. Io non decido niente nel suo confronto. Senta, io ho chiamato padre Bisceglia perché ha invitato Berlusconi in Calabria. Il signore ha fatto del dolore a causa allora? Dolore. Che i mostri persone. Non si possono intervistare. I mostri non si possono. Non si devono e chi lo decide? E chi lo decide? Lei, Alessandro Davarese. Lo decide lei. Il rispetto delle persone. Il rispetto delle persone che sono state. Danneggiate da questo signore. Senta, questo io l'ho chiamato per un'altra cosa, non mi sono occupato di quella vicenda lì. Lui dice di essere innocente, io gli ho ricordato. Lei, quello che ha fatto stasera fa schifo. Vabbè, a lei fa schifo, a me no. Lei l'ha ascoltato, le ha fatto schifo. Dovrebbero impedirglielo di ma fare quale impedire? Dovrebbe impedire a lei di dire queste stronzate. No, mi dispiace, stronzate le fa lei tutte le sere con queste minchiate di intervistare questi signori che si oltretutto sono tutti felici, come diceva Alfredo. Ma quanto io non vado in galera perché ho 75 anni. Beh, l'ha detto lui. Ma speriamo che qualcuno gli gonfi la faccia a questo signore, che abbia veramente qualcuno che altro la distanza. Sì. Un attimo, fermo, resti lì. Sì, lodato Gesù Cristo. Fermo. siete due bastarde nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Pure cucinare, che ci resta. Quando mi vuoi chiamare, Giuseppe, io sono sempre a tua disposizione. È meglio lavorare, non voglio discutere con. Allora, Alessandro, io voglio capire una cosa: qual è il problema? Qual è il problema? Padre Bisceglia è un ex parroco, perché è stato sospeso a Divinis, che abbiamo intervistato. Stia calmo. Che l'unica cosa di nota che hanno fatto è di violentare una persona. Stia tranquillo. A non arrivare a col cervello. Senta, Alessandro, abbia pazienza. Dai, notorietà. Vabbè, ma protesti. Solamente ha violentato una persona. Ma bravi. Così Alessandro, lei deve stare tranquillo. A violentare tutti quanti, così vado alla Zanzara. Ma non è quello il punto. Il programma di coglioni. Ma lei non ha capito nulla. Lei non ha capito niente. Nulla, mi dispiace, ma non ha capito nulla. Non è che l'ho chiamato per raccontare, oddio, com'è stato bello stuprare quella suora. Ovviamente lui dice, tra l'altro, essendo stato condannato in secondo grado e dunque non in via definitiva, di essere innocente. Lasciamo perdere la questione. Io l'ho chiamato perché un attimo, perché uno. Oddio, questo rispetto. A parte che io rispetto non ne ho. Punto. Primo. Secondo. Allora, Alessandro, ma non. E ci vorrebbe, secondo lei, ci vorrebbe. La cifra. Oddio, ma non c'entra niente la suora adesso. Non c'entra nulla. Questo signore. Ma l'ha sentito parlare quel signore? Certo che l'ho sentito. Certo. Allora. Qual è e il secondo punto? Lei quella è una persona da mandare in onda in diretta in un programma nazionale? Quella persona lì dovrebbe essere rinchiusa. Quella persona dovrebbe essere rinchiusa per non fare. Innanzitutto rinchiusa fino a quando ci sarà la sentenza definitiva, quando capito? Ci sarà la sentenza, ecco, lo specifichi sentenza. Sempre, lo specifichi adesso sempre. Facciamo quelli che devono difendere i diritti. Ma no, ma certo. Intanto i diritti di quella povera suora che è stata violentata, nessuno se li Vabbè, fila. Alessandro, grazie, arrivederci. Lei, proviamo a richiamare Parenzo un attimo, proviamo a richiamarlo che mi incazzo. Sì, pronto, chi è? Sono di nuovo io, guarda che ti faccio licenziare. Stai fermo un attimo, stai fermo un attimo. Ti ho detto che non posso, ti ho detto anche prima, l'ho spiegato a tutti, non possumus, non possumus. Ma questa è una lingua che non puoi usare tu. Un attimo solo, aspetta un secondo, che c'è il direttore. Chiamiamo Fede. Chiamiamo direttore? Fede, Emilio Fede, ex direttore, comunque sempre direttore per noi. Chiediamogli se è vero che Murdoch gli ha offerto 7 milioni di euro. Si dice 7 milioni di euro per un libro sul Bunga Bunga. Ma io non posso adesso. Aspetta un secondo, sennò ti faccio licenziare. Aspetta. Sì. Direttore? Sì. Sono Cruciani, come stai? Ui, ciao. Come va? C'è pure Parenzo? Che ti c'è pure Parenzo. Ti vuole salutare? Mannaggia, se mi acchiappa tutte e due, guarda, qui mi sono munito di un cane lupo. Aspetta che saluto mia moglie. Sì, vai, saluta. Salutala anche a noi, Ti saluta, pronto, Diana? Ti saluta Cruciani, sì. E Parenzo, tutte e due, i due delinquenti. Ciao. Ridi, ciao. Eccomi, ciao. Scusa, non vedo sconosciuto, insomma, se qualcuno che rompe i coglioni. Eccomi qua. Chi è? Chi è che rompe i coglioni, scusa? No, ci sono quelli che chiamano sconosciuto. Ah, quelli sono dei criminali. No, ma guarda, ma sono dei criminali, ma di notte, alle tre, ma sai, proprio idiota, ma c'è uno che può telefonare a tutte le ore per dire scusi alla pizzeria, ma vaffanculo. Ma che ti dicono? Non ho capito, questi che chiamano alle tre di notte. Ma no, ma tipo questo, sento, vorrei ordinare una pizza Margherita. Ma scusa, come mai si sbagliano numero? Che è un nome uguale? No, giocano. Loro mettono in viva voce, dice adesso sentiamo Emilio Fede, sempre con una serie di insulti. Io ho fatto, credo, 100 e passa denunce, ma avessero mai trovato uno di quelli che mi ha insultato. Ma perché non li mandi a fare in culo quando ti chiamano? Non ho capito. No, li mandi a fare in culo, certo, li mandi a fare in culo, però non è adesso con falso sconosciuto. Sto parlando con Diana. Ah. Sconosciuto, la prima cosa che dico è ma tanto, cagare, vaffanculo, e ti capitano a te, capito? No, vabbè, ma tanto a me devi mandato... cambiare numero, devi cambiare numero. Devi cambiare numero, dice Parenzo, cambiare numero. Lo so, ma ho aperto tutti i contatti. Sai, io poi rimango isolato. Comunque ti dobbiamo dire una cosa, siamo arrivati a Rete4 al posto tuo, al posto. Ma sono contento. Guarda, io te ne sei andato tu e siamo arrivati noi. Siamo sbarcati là. Che dici? Dico siamo sbarcati lì, dice Parenzo, alza la voce un attimo. Abbiamo messo una bandiera rossa. Avete messo la bandiera rossa? No, questo non abbiamo, questo non... abbiamo fatto la conferenza stampa con il pugno chiuso, salutando il compagno Crippa, il compagno Pier Silvio, tutto il comitato centrale del partito, e abbiamo messo la bandiera rossa su Colonia Monzese. Avete occupato. Allora, te ne sei andato tu e siamo arrivati noi, capisci quella cosa? Cioè, dovevano risparmiare sul tuo stipendio, prima ti hanno cacciato. perché sennò a noi i soldi come ce li danno, scusa? No, sì, ho capito, ma tieni conto che io dirigo la discussione gratis et amore dei. Vabbè, certo, ma c'hai pure lo stipendio ancora di Mediaset, ma che vuoi dalla vita, scusa? Scusa. Infatti non accetterei un altro stipendio perché ritengo... in questo momento mi basta qui. Ma comunque è vero che tu hai ancora un addetto stampa, Emilio? Io un addetto stampa? Sì, una persona che... quante persone c'hai dietro di te ancora che si occupano di te? 4-5? È una cosa pazzesca. No, nessuno. No, assolutamente nessuno. C'è una persona che funge da segreteria generale. Sì. Che non mia. Vabbè. Prende le telefonate eventualmente. Capito? Vabbè, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma tanto su queste cose abbiamo già detto tutto. Ma la cosa che vogliamo sapere noi, Emilio. Segreteria generale. No, ma la cosa che vogliamo sapere è questa. Ma è vero che Murdoch ti ha offerto, l'ha scritto da Gospia, 7 milioni di euro per un libro sul Bunga Bunga? Allora, scusa, faccio la domanda ai miei amici che sono in collegamento, vale, tu e Parenzo. Secondo voi, qui come la storia della valigetta, è possibile? No, 7 milioni magari no, ma che ti abbiano offerto di scrivere un libro, sì. Beh, sì. Che mi abbiano offerto di scrivere un libro, sì, ma non a questi livelli, neanche per svelare chissà che cosa c'è da svelare o nulla da svelare. Quello che devo svelare, come ho detto, l'ho svelato alla giustizia e naturalmente... Ma è vero che te l'ha offerto Murdoch o no? Ma io no, tra l'altro è che in fotografia... e la moglie cinese non ho mai visto Mardo. Non so chi sia. E chi ti ha offerto di scrivere sto libro allora? No, ma si parla, cioè io dovevo scrivere, lì nasce forse l'equivoco, ma non è un equivoco. Ma Dago Spia non è che scrive cazzate, qualche fonte ci sarà o no? Beh, allora, per essere sinceri, qualche fonte ci può essere stata, ma non di milioni né per svelare chissà che cosa. Io l'ultima volta che avevo, cioè io ho scritto 9 cavolate per la Mondadori, il decimo libro l'ho voluto scrivere perché avevo un titolo che non mi convinceva, ma ti parlo di un anno fa. No, vabbè, ma un libro su Bunga Bunga, è vero che qualcuno ti ha proposto, di la tua, cioè di tutto quello che non hai detto fino adesso su Bunga Bunga, lo dici e ti diamo un sacco di soldi, ci sarà stato qualcuno che te l'ha chiesto, no? Sì signore, qualcuno che mi ha chiesto di scrivere un libro in generale, dove però non doveva mancare... Il Bunga Bunga. Le notti di Arco, non so. E tu hai detto di no? Io ho detto di no. Hai detto di no. Quanto ti hanno offerto? No, ma questo è sarebbe stato un normale contratto di editoria. Normale, guarda. Cosa vuol dire? Cioè, con cifre, che ne so, 200.000 euro, quanto ti hanno offerto? No, non abbiamo parlato di soldi. Ah. Ma perché è spuntata sta cifra, 7 milioni di euro? Una cosa pazzesca. Forse hanno pensato 7 anni di galera, 7 milioni di euro, 1 milione all'anno. Questo non è male. Non è male, no? Senti, no. Emilio, ma sei sicuro che nessuno chiederà la grazia per Berlusconi? Secondo me alla fine qualcuno la chiederà. Pare che sia l'unica strada, eh? Sì, però credo di aver capito, tecnicamente però non è che sia dotto, che la grazia la possono chiedere i familiari, cioè poniamo i figli. Credo, da quello che ho capito. No, anche gli avvocati. No, anche gli avvocati. Sì, ho letto oggi. Sì. Non lo so, guarda, perché io oggi sul fatto vengo citato perché ero andato a firmare per i radicali. Sì, anche tu vai a firmare per i radicali, Parenzo. Ma Emilio Fede non se ne è mai filati sti radicali, dai. No, su. No, lui mai. No, te lo dico, io sono amico. Dai, su, hai fatto sta sceneggiata con Brunetta, non te ne frega niente del referendum, Emilio. No, scusami, io... con i radicali, pensa che quando ero direttore di TG1 Marco Pannella ha occupato il mio studio e mi ha mandato prima di andarsene dovevo indossare la giacca da maggiordomo, cosa che ho fatto pure. Vabbè, quello è specialista in queste cose. Beh, ho capito, a parte queste sceneggiate, ho capito, ma te che vai a firmare lì il referendum l'hai fatto solo perché c'è andato Berlusconi? Certo. No, sulla discussione avevo pubblicato 2 settimane fa una lunga intervista a Marco Pannella. Nell'intervista Marco Pannella diceva, si rivolgeva nell'intervista a Berlusconi dicendo Silvio chiamami, e poi ha detto a me: per favore, se hai la possibilità. Cioè, sei stato tu a fare da intermediario tra Pannella e Berlusconi? Attraverso l'intervista, però, attraverso il giornale. Non vabbè. Vabbè, ma come va a finire questa storia di Berlusconi? Che lui va a fare. Io gli do un consiglio. Ma il leader politico. Scusa, ma non farebbe bene a dimettersi prima dal Senato, prima del voto? Si dimette dal Senato e va a fare i servizi sociali per un anno a pulire il sedere ai condannati, a cose di questo tipo? A pulire il sedere a nessuno di noi. Deve essere portato a fare il nessuno. Guarda, io personalmente mi dimetterei da tutto. Io ecco. La prima pagina dicendo lui resta il leader. Comunque sia. Invece del voto al Senato e sottoporsi a questa cosa, non è meglio dimettersi prima? Ma io penso che questo dimettersi prima o poi non lo so. Comunque dico questo: che comunque vada, lui resta il leader, perché non c'è mica una. Però si dimette da tutto, si dovrebbe dimettere da tutto. Dimette da tutto. Dal Senato, dai, dal Senato, su. Dal Senato, lui in questo momento ha una tale popolarità. Tu devi pensare. Che gli frega di stare al Senato, su, dai. No, aspetta, a voi non me ne frega niente. Io ho fatto un blog. Lo sai che in 15 giorni sono arrivato a 6.800 adesioni. E allora? Per dire che io ho passato i guai miei, nel senso che sono stato condannato a me sette anni, e in appello lui avrà 7 anni e io 7 anni. Va bene, quindi speriamo di non finire nelle mani di Esposito, se no anche in Cassazione ci saranno 7 anni e 7 anni. Però dico, vabbè. Io, Emilio Fede, mi dimetto, faccio tutto e resto Emilio Fede. Oh, ma certo, lui deve dimettersi dal Senato e resta leader del centrodestra, quello che è, giusto? Lui sarà leader comunque sempre. Ah, ho capito. Lui, ma certo, non ci sono dubbi. Il Partito Democratico, grazie a Renzi, sta facendo un casino che non finisce più. Certo. Mancava pure le mutandine in testa a mo' di bandana. A chi? Ah, ha visto la bandana di Renzi, sì. Le mutandine. Il signorino è stato bravo. Ah, no, è oggi, settimanale oggi. È oggi. È oggi. Sono i vostri parenti, ma voi che fate? Siete tutti cosa siete? I tigrotti di buon procedimento. Ma noi ti invitiamo subito, la prima puntata, sei con noi, la prima puntata. Assolutamente sì. Oh, un abbraccio direttore, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Siamo qui, 800-24-00-24, Franco Cosenza, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Io volevo intervenire per quanto riguarda... A proposito di preti e di donna, ma lo sapete che c'è un tizio che si chiama Don Giulio Marra? Don Giulio Marra, uno che è fissato con Satana, col satanismo, che ha accusato Tiziano Ferro, il cantante Tiziano Ferro, di aver inserito in alcune sue canzoni, anzi in una canzone, delle parole che inneggiano a Satana. A Satana, vi rendete conto o no? Poi sempre questo Marra pensa che Satana sia dentro diverse canzoni, Imagine di John Lennon, delle canzoni di Led Zeppelin, Satana ovunque. Vabbè, Franco, che vuole? Allora, volevo intervenire per quanto riguarda Padre Bisceglie, perché io sono di Cosenza, lo conosco bene. Innanzitutto c'è minimo 3 o 4 figli in giro. Chi? Questo è quello che si Bisceglie. Il padre Bisceglie. E sì. Lui non ha detto che non ha mai con nessuna donna. No, non ha detto questo. Ha detto sono cose che posso dire solamente al confessore. Oh, è diversa, quindi, la cosa. Ma che ne sa lei che ha avuto dei figli? Su, Franco. Ma se li porta anche dietro. Lui la. Come se li porta dietro? Che vuol dire? E si ha portato anche. Lui va in missioni in Africa, si porta i bambini. E l'ha detto apertamente che aveva un figlio. Era suo figlio, quindi non è vero che lui diceva prima fissa e poi messa. Prima? Quindi prima doveva fare l'amore e poi ma com'era l'espressione, scusi? E mandava dei messaggini ai telefoni e diceva prima fissa in calabrese e poi messa. Che vuol dire in calabrese? Fissi? Che cos'è? Prima fisso, che è? Prima fare l'amore. Ma ho capito, ma com'è in dialetto? In dialetto vuol dire prima toccare la donna e poi... Sì, ma l'espressione dialettale qual è? Prima? Prima fissa e poi messa. Ah, prima fissa e poi messa. Vabbè, Franco, grazie. Che vuole aggiungere sempre questo padre Bisceglie? Niente? No, qualcosa di buono comunque l'ha fatto. Sicuramente ha fatto la mente dei poveri. Stefano da Roma, Stefano, grazie. Pronto? Dica. Buonasera Cruciani, buonasera dottor Parenzo, grazie per avermi ospitato. Parenzo è scomparso perché c'ha le cose ebraiche, allora? Vabbè, comunque. Allora, mi scusi, io sono un ex attivista delle associazioni di genitori separati. Sono Ok, no, non voglio parlare di separazione. E allora perché lo dice? Le spiego, perché sto riferendo all'intervista che lei ha fatto al frate condannato in secondo grado di stupro. Allora? Sono d'accordissimo con lei di aver chiamato questa persona e di averla intervistata, e sono d'accordo con lei che il diritto di cronaca prescinde da qualsiasi... Vabbè, ma adesso non ci importa, dunque? Mi piacerebbe che in queste occasioni, per piacere, è un appello che le lancio, spiegasse, argomentasse prima delle interviste no, guardi, che cosa vuole dire? Che dobbiamo fare il riassunto dalla vicenda giudiziaria di padre Vicente? No, cercare di far comprendere ai più che si tratta soltanto di giornalismo. Purtroppo queste argomentazioni le ho vissute in prima persona, capisce? Nel senso che ho subito un processo durato 5 anni, dal quale sono uscito lindo e pulito, perché il fatto non sussiste. Io sono stato una persona fortunata e forte in questo senso, ma ho visto padri, soprattutto, perché sono loro quelli accusati nei tribunali, che sono finiti sul... Vabbè, Stefano, però è un altro argomento questo. Marco da Roma, grazie Marco. Marco? Sì, pronto? Mi sente? Dica. Allora, io volevo tornare sulla barzelletta della pitonessa. Dica, che c'è da dire? Ero contento di raccontarvela come me la raccontarono a me una trentina d'anni fa. Cioè come gliel'hanno raccontata? In una forma un po' più elegante, più raffinata, dove giocava un doppio senso anche sotto l'aspetto linguistico, ovvero il coniglietto, dopo questa esperienza, non diceva come ho sentito ieri, e quell'espressione, ma diceva: ma ha fatto una pompa di paura. E quindi ci sono due sensi, non uno, in questa barzelletta molto più elegante. No, non ho capito bene. Allora, ricapitoliamo sta barzelletta. Lei ce l'ha sotto mano? Sì, d'accordo. Allora, la barzelletta era che il coniglietto nella casa chiusa veniva messo in compagnia di una pitonessa che era reputata la migliore prostituta. Sì. Dopo mezz'ora non usciva e la padrona si preoccupa, entra dentro e chiede e cerca di vedere che fine ha fatto il coniglietto, che era stato mangiato dalla pitonessa, era nella pancia della pitonessa. Sì. La padrona, io la vendaria, io ancora uno che le racconta bene non l'ho trovato, cioè chiamateci uno che le racconta fuori. Riesce a tirarla fuori e questo coniglietto direbbe, secondo la versione che ho sentito ieri, mi ha fatto un bocchino bestiale. Detta così bestia che pompino, Sì, detta così è un po' terra-terra. Invece la versione che ho sentito ieri è più divertente, più fina. Ovvero, il coniglietto dice: oh, ma ha fatto una pompa di paura. E vabbè, uguale più o meno. Non è uguale. Più o meno uguale. È diverso, perché prende in giro l'espressione di paura. Cioè, è paradossale, ma è un cortocircuito matematico, come tutte le barzellette che si rispettano. Mi sembra una roba così marginale. Invece in quell'altra versione è un'espressione da caserma, una battutaccia. Va bene, grazie. Renato, sempre da Roma, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Io volevo semplicemente, con pazienza, semplicemente dire questo, che il tema dell'amnistia è un tema delicato e penso che debba essere con urgenza, perché è necessaria, emanato un provvedimento. Lei è a favore dell'amnistia, io no. No, mi posso finire? Per cortesia? Ma lei può finire. La prego. Allora, perché le carceri, le cose, ho capito. No, ma se lei va al posto mio, perché, mi scusi, mi fa finire per favore? Vada. Ok. Allora, l'amnistia, ci sono tanti cittadini che sono stati perseguiti ingiustamente, e allora l'amnistia è un atto necessario, urgente, inderogabile, indifferibile. Questo permette alle persone di vivere serenamente, di non essere perseguitati dalla magistratura, da una parte della magistratura, non da tutti, ben inteso. E poi all'Italia si risparmia la vergogna delle continue condanne, va bene, da parte degli organi giudiziari europei. Vabbè, i danni senta, sono Renato, in mani, sì, d'accordo, va benissimo. Invito il presidente Napolitano a vararla con assoluta urgenza, come atto necessario nell'interesse pubblico. Lei ha fatto il suo proclama, benissimo. Questo, no, è un appello di interesse pubblico. Sì, ma che ne sa che di interesse pubblico? Ma lei chi è? Che fa? Interpreta l'interesse pubblico, scusi? La società civile. Sì, e la società civile. Anche per lei. Se ma vuole lei... saperlo, mi contatti. Ma lei rappresenta se stesso. No, come... no, lei rappresenta se stesso. Tutti noi rappresentiamo noi stessi. No, lei rappresenta. Perché lei chi rappresenta, scusi? Lei chi rappresenta? Lei chi rappresenta di più? Lei, no, no. Io rappresento sì, i cittadini. Sì, i cittadini. Lei rappresenta chi? Mi scusi, chi? No, io rappresento me stesso. Benissimo. Allora, e anche lei rappresenta solo se stesso, allora, dunque non è, non è né la società. La società civile senza ma quale società civile? Anche nell'interesse ma qual è la, ma quale interesse mio? Interesse ma noi non ho lavorato. Coraggio, mi inviti in trasmissione e le spiegherò ma perché. Chi è lei? Ma che lavoro ha fatto? Scusi, che lavoro io ha fatto? Che... Ma guardi, non, questo può essere oggetto di una trasmissione dedicata. Ma quale dedicata? Per... Ma lei al manicomio deve andare, altro che manicomio. Lei è un maleducato. Ma sarà un maleducato, ma quale? Direttore, licenzi questo scostumato. Sì. Tante, si sì. Vergogni, la sì. Devono cacciare via. Sì, sicuramente mi cacceranno, dopo il suo intervento sicuramente mi cacceranno. Lei intanto si becchi questa bella ambulanzina, eh? Dove si trova lei esattamente? Che le mando subito che c'è bisogno di una puntura grossa come una casa, c'è un siringone c'è bisogno. Renato? Ma che ha fatto? Ha attaccato questo qua? Vabbè, siamo alla follia più totale. Un altro Renato, vediamo se è come questo, va, Milano? No, allora, buonasera. Sì. Io mi voglio riallacciare al discorso del lei si chiama Renato come il matto di prima, sì, sì, sono io. No, sono ma io, per dire, io. No, ma... Cerchi di tenere alto l'onore di quelli che si chiamano Renato, perché ha sentito prima. Ma, oddio. Ah, cosa pazzesca. Faremo il possibile. La questione è questa, io mi riallaccio al discorso del prete, del padre lì. Padre Biscelli, non capisco sì. Perché tutto questo interesse. Tutti sanno, no? Io lo so, cioè, poi vi dirò perché. Che molti preti hanno l'amichetto. Sì, vabbè. E lui? Amichetto, amichette pure. Cioè, non so se molti preti, sicuramente come succede in tutte le grandi famiglie, anche i preti hanno un'attività sessuale ogni tanto, non tutti. Guardi, sì, io sono molto competente nel settore. Ma che vuol dire? Ma che competenza ha lei? Scusi, che competenza? Faccio il mestiere più antico del mondo. Che mestiere fa? La puttana, scusi? Bravissimo. Non lo so, che fa le marchette lei? Allora, sì, volgarmente dette sì. Cioè, nel senso che... Che in che senso fa le marchette? Scusi, mi spieghi? Mi propongo tramite il web. Prima mi proponevo. Cioè, lei tramite... fa il puttano, non ho capito che fa. Praticamente, sì, esattamente. Ma con chi va, scusi, Renato? Con preti, eventuali donne, eventuali uomini. E quanto prende lei? Come? Quanto prende? Io 100, 100, 150, 70, 80. Ma perché lo fa? Per denaro, evidentemente, no? Sicuramente denaro, sicuramente denaro, ma anche. Curiosità. E comunque le dico, sono entrato in contatto. Scusi un attimo, però adesso preti. lei mi sta prendendo per il culo. Non è possibile. No, non sto coglionando nessuno. Cioè, lei mi sta coglionando. Renato. Non sto coglionando. Lei no, mi sta è evidente che mi sta coglionando. Lei sostiene, e qui non abbiamo nessuna prova, che lei è una prostituta. Cioè, lei è un come si dice? Un gigolò. Come si dice? Bravissimo, no, gigolò no, perché. No, vabbè, io volgarmente detto, ma che caro, siamo della capitale, perché io comunque. Ma dove mette questi annunci? Su web? Su internet. Ma poi si sviluppa un passaparola, per cui... Quanto guadagna? Io mediamente 1.500, 2.000, non di più. Tutto carità. È nero, ovviamente. D'altronde... Quanti preti ha come? Io non ci credo, ragazzi. No, non no, allora le porterò le foto, cosa le devo dire? Con quanti preti va non lei? Non ho foto, non ho foto di questo, però le posso assicurare che... Scusi, se è tradito, ha detto che ha delle foto? No, era ironico, le porto le foto non posso avere foto perché nessuno si fa foto, però le posso assicurare che tra le tante persone... Uno potrebbe fotografare anche di nascosto, comunque vabbè. No, infatti non ho foto, però le posso assicurare che tra ci sono alcuni preti. E vabbè, allora? E quindi, voglio dire, è consuetudine, per cui nessuna meraviglia che quello abbia l'amica... La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza. Renato da Milano sostiene di fare le marchette sul web. Vabbè, dai, sì. Renato, fare le marchette, come vabbè, si chiamano? Vabbè, certo. Fai sesso per soldi. No, vabbè, pure coi preti, pure coi preti. Vabbè, ma la clientela è quella. Che te la puoi scegliere. La clientela è quella, non è la clientela fatta tutta di preti. Dai, su, Renato. No, grazie a Dio. Ma quanti anni hai? Quanti anni io, hai? 30. A 30 anni. Bene, questo sono contento. Sono lo zoccolo duro. Pur nella crisi, diciamo che... Però io ancora non ci credo, ancora non ci credo. Vabbè, poi... allora facciamo una cosa, siccome io sono a Milano, no? Sì, no, adesso manda... non è che ci possiamo incontrare. No, lo so che voi, lo so, allora, ma fa sconto a Parenzo. In che senso? No, ma che c'è? Sicuramente questa... lui è interessato a questo tipo di servizio. Ma che ne sa lei? Ma non è vero, ma perché pensa una cosa del genere? Mi sembra avvocato a quel tipo di... Vabbè, ma lei che cosa vuole dire con questo? Scusi, ci ha raccontato che fa il gigolo, che prende 1.500-2.000 euro al mese andando pure con i preti. Magari, cioè... vabbè, sì, 1.500, sì, ma 2.000. Ma lei non vale, non vale un cazzo, scusi. No, cioè, sì, vale sì, pochissimo, ma sul mercato, la, cioè... la fascia low cost, io rappresento la fascia low cost. Cioè, ma scusi, siccome abbiamo la nostra amica Susi che era per 20-30 euro, faceva delle cose, lei, scusi, a prestazione quant'è? 100? Sì, 100, sì, sì. Esatto. 100 minimo, minimo. Beh, oh, se no veramente... Però io non ci credo ancora a questa cosa, non ci... Allora, guardi, facciamo una cosa, incontriamoci. No, mi mandi una mail, mi mandi... No, incontriamoci, non se ne parla. Mi mandi una mail, gcruciani@radio24.it. Vabbè, ma che lei che cosa vuole dire con questo? Vabbè, che... Volevo dire, cioè, perché scandalizzarsi? Ma chi si scandalizza? Io non mi scandalizzo di nulla. Cioè, non fa notizia, perché in realtà lo sappiamo... Beh, se uno stupra, persone... se uno stupra, evidente ma che fa notizia. Sì, vabbè, lo stupro, ok, per carità, lì è un eccesso, però... La vera cosa che Mauro dice è che questo abbia delle figlie, ma tutti ce l'hanno, tutta la gente che è in chiesa raramente non ha l'amico o l'amica, tutti hanno l'amico e lui fatte, quindi la notizia sarebbe dell'amica, non del fatto che lui abbia qualcuna, ma del fatto che abbia l'amica, perché tutti hanno l'amico, cioè queste persone hanno l'amico, perché vogliamo... Ma chi, i preti, dice lei? Ma sì, ma lei davvero crede che esista l'astinenza? No, no, no, no, non credo, non ci credo. No, io credo che la maggioranza dei parroci, eccetera, siano persone che non fanno attività sessuale. La maggioranza. Non fanno niente. No, no, non fanno niente. Ok, ci vediamo allora. Lei dice di no. Vabbè, Renato, grazie, grazie, grazie. Sì, pronto? Chi è? Eccolo qui, t'ho pizzicato di nuovo. Ti ho detto, ma perché no? Perché purtroppo non capisci? Perché dentro quella segatura di testa c'è soltanto della farina di crusca? Perché? Però aspetta un attimo, tu sai che ma è iniziato... Ma cosa? Che t'ho detto che oggi non va potevo. Bene, lascia perdere un attimo, i religiosi, i rabbini, queste cose qua. Aspetta un attimo, cioè è iniziato il grande reclutamento radiofonico di Radio 24, lo sai, dai, no? Della zanzara. Capodanno ebraico. Lo so, d'accordo. Nulla del grande reclutamento, perché sì. Non hai rispetto di niente? Però aspetta un secondo, guarda che sono cose interessantissime che potrebbero affascinarti. La sostanza è questa, se avete fegato, ingegno, mandato i vostri contributi, lo sapete, no? La zanzara è radio24.it. Il migliore per ora, secondo noi, l'hai ascoltato anche tu alla fine, è questo. Un po' alla Diego Cugia, con toni apocalittici, i testi un po' da rivedere, ma c'è del talento. Si chiama Francesco Piacentini. Ripeto, you zanzara, la zanzara è radio24.it. Francesco Piacentini, dinosauria. Nati così, così, così, nati così, in mezzo a tutto questo, tra facce di gesso che ghignano e la signora morta che se la ride, mentre gli orizzonti politici si dissolvono, mentre i pesci sporchi di petrolio sputano la loro preda oleosa. Nati così, in mezzo a tutto questo, tra ospedali così costosi che conviene lasciarsi morire, tra avvocati talmente esosi che è meglio dichiararsi colpevoli, in un paese dove le galere sono piene e i manicomi sono chiusi, in un posto dove le masse trasformano i cretini in eroi di successo. In mezzo a tutto questo ci muoviamo e viviamo, a causa di tutto questo moriamo, castrati, corrotti, diseredati per tutto questo. Le dita vanno in cerca di un dio insensibile, le dita cercano la bottiglia, le pillole, qualcosa da sniffare. Siamo nati in mezzo a questa morte dolorosa che incombe. Siamo nati in mezzo a questa morte dolorosa che incombe. Ammazzarsi in pieno giorno per la strada non sarà più un crimine. Resteranno solo pistole e folle disbandati. La terra sarà inutile. Il cibo diventerà un rendimento decrescente. L'energia nucleare sarà in mano alle masse. Il pianeta sarà scosso da un'esplosione dopo l'altra. Uomini radioattivi si nutriranno della carne di uomini radioattivi. Uomini radioattivi si nutriranno della carne di uomini radioattivi. La puzza delle carcasse di uomini e animali si propagherà nel vento. E il più bel silenzio mai ascoltato nascerà da tutto questo. Il sole nascosto attenderà il capitolo successivo. Il sole nascosto attenderà il capitolo successivo. Vabbè, l'hai sentito questo qua, no? Questo Piacentini, che dici? Indubbiamente forse è uno dei migliori, dopodiché anche da ricoverare, ma con quella voce, quella... è pazzo, proprio, però è bravo, pazzo, ma bravo. Vabbè, poi c'è da lavorare, però abbiamo apprezzato l'idea di Enrico Ludovico, che chiama una farmacia o qualcosa del genere. Sentite. Pronto, sì? Un'informazione. Vorrei una depressione. Ah, è finita. Ma senta, neanche una piccola ansia. Ah, sono arrivato tardi. Lo so che va a ruba. Ma un desiderio di suicidio o qualcosa? Anche piccolo? Niente. Tutto finito. Vabbè. Che vita di merda. Grazie. Buonasera. Vabbè, se quello di prima era pazzo, questo che è? Scusami, No, spiegami questo che cos'è. Effettivamente mi hai rinfrescato la memoria. No, questo qui è da internare semplicemente. Quello era da curare. Però, ancora con qualche margine di recupero. Però ha una sua genialità questo qua. Chiama qualcuno e chiede... Ma come diceva Nietzsche, non c'è confine tra genialità e pazzia a un certo punto. Cioè, tu lo chiami genio, io pazzo, ma comunque... Vabbè, comunque, ragazzi, non vi deprimete. Sono le prime cose che sono arrivate. Guarda che questi due non sono male, ma il numero uno è il mitologico Mario Scrivo. Voi siete un programma, io sono il programma. Fermo che commentiamo, Voi siete un programma, io sono il programma. Ciao Barenzo, ciao Cruciani, ciao Zanzara. Mi chiamo Mario Scrivo, sono di Reggio Calabria, ho 43 anni, sono un infermiere rianimatore, sono laureato anche in scienze politiche, mi definisco un tuttologo perché sono molto ferrato per quanto riguarda tematiche come politica, cronaca e attualità. Sì, sì, un tuttologo. Sono una persona che ha la battuta pronta, a cui piace anche molto improvvisare, perciò questa è la prima registrazione e ultima che faccio, e che non mi va di recitare un copione, non mi va di non essere spontaneo. Hai capito? Non gli va di recitare un copione, La battuta pronta, che ho una bella voce, e sì? Che comunque non faccio sconti a nessuno, perché nella mia vita mi sono fatto da solo, non devo dire grazie a nessuno. E chi sono se ne frega? Molto arrabbiato. È molto arrabbiato, Ho un carattere molto forte. Ha un carattere forte. Molto forte, molto critico. E appunto, una persona che non guarda in faccia a nessuno. No, certo. A nessuno. Hai capito? Non fa sconti a nessuno. Spero di poter far parte del vostro team, di far parte della vostra trasmissione. Stai tranquillo. Non mi interessa nessun tipo di compenso, non mi interessa niente. Beh, perché io... Meno male, tanto non te li diamo lo stesso. Tanto far uscire quel magone che ho dentro di me. Ah, il magone? Il magone di? Disdegno. Ah, disdegno. Come il magone disdegno. Tutte le cose in Italia. Ah, il magone disdegno. Non mi piacciono le mezze Uno misure. O ha il magone oppure è indignato. O nero o azzurro. Sentiamo. Ah, non è nero o azzurro. Altri colori da aggiungere. Ma non era anche bianco nero. Dal punto di vista di tifo calcistico sono orgogliosamente interista. Ah, hai capito, cioè non sono né bianco, non mi piace né bianco, mi piace solo bianco e nero, però lui piace nero o azzurro. Della vostra squadra. Perché dell'Inter. Ripetitivo. No, non sei ripetitivo, no. Nel mio paniere, ho tanto da stupirvi e tanto da stupire. Sì, ho solo nel paniere di un'opportunità. Un'opportunità, grazie. Non c'è dubbio, arriverà. Ma di quale cantiere parte? Ma che ne so, il paniere ma che ne so, ma il paniere, ma il paniere dell'Istat. Mario Scrivo continua, Mario Scrivo, non Scribio. Mario Scrivo, come scrivere? Sei ancora a casa? Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire, ma che fastidio, che fatica a sopportare di notte le zanzare. Siamo qui, 800240024, Lello da Napoli, buonasera. Uè, Cruciani, ma che ci voglio parlare con te? Ehi. Mi senti? Siamo qui, parli. Adesso deve sempre pensare che ci vuole a parlare, che non ci vuole. Mamma mia, è sempre un problema. Comunque volevo dirti prima la prima cosa che volevo dirti. a Napoli, sai come diciamo, lui, la bocca è un grande strumento. Sì. Che parecchi di questi qua che ti chiamano, secondo me, lo gonfiano un po', hai capito, no? No, non ho capito niente, spiegami meglio. A Napoli, la bocca, diciamo, è un grande strumento. Che la bocca è un grande strumento. Sì. Mi senti? Sì, sì, ti sento, allora? Sì, perché un po' di gente che chiama, che io sto ascoltando da un po' di tempo, no? Sì. Secondo me gonfia, mi riesce a capire, gonfia quello che dice, come il playboy che aveva avuto prima, che va col prete, vabbè, eccetera, ma quello, eccetera, sai, sono tutte, capito, cose inverificabili, come fai a verificarle? Eh? Come fai a verificare queste cose, Lello? È impossibile verificarle. No, lo so che è impossibile verificare, però... Cioè uno può chiamare e dire, che ne so, sono andato con... dire, sono il presidente degli Stati Uniti No, quello no, magari sono andato con un... Uno può dire... sono meglio di Casanova, ho scopato con tutti... No, ma certo, certo. Hai capito? Tu non puoi contraddirmi, giustamente. E allora? Volevo salutarti, volevo salutare Palenzo. Ma non devi salutare nessuno. Ma mica trattate sempre il mio Lello, ma Palenzo. Non è che uno chiama per salutare. Qui non è radio, chiami radio. No, ma io non posso mandarti pure a fare in culo, non è un problema. Ma tu mi devi mandare a fare in culo se c'è un motivo, se c'è un motivo per mandarmi a fare in culo, scusa. Siete simpatici, ma allo stesso momento siete anche pesanti. E dunque? Ma lei che fa di mestiere? Lello, lei che fa di mestiere? Che fa di mestiere? No, sono disoccupato attualmente. Te pareva? Che sono ragioniere, però attualmente non sto lavorando. Non sta là, da quant'è che non lavora? Sono più o meno 15 anni. Sì, e che fa in 15 anni, come campa? Sì. Mi senti? Come campa in questi 15 anni lei? Ah, mi sono mangiato 80.000 euro. Come se l'hai mangiato 80.000 euro? Me li sono mangiati, Cruciani. No, ma ho capito, ma perché da 15 anni non lavora, Lello? Perché non c'ha voglia di fare un cazzo, diciamo la verità. No, perché no, non è vero. Ma no, come no, non c'ha voglia. Ma si rimbocchi le maniche. Non è vero, ma come no? No, infatti se ti dico l'ultimo lavoro che ho fatto, non ci crederai. E qual è l'ultimo che ha fatto? Le marchette pure lei, no? Ho fatto il contadino. Ottimo, va benissimo, no? Lo so pure fare, non è questo il problema, però cioè non si guadagna pochissimo comunque qua da noi, non è che si sa qualcosa. Però ci permette di andare avanti. Ma non ho capito, allora ha lavorato o non ha lavorato negli ultimi 15 anni, Lello? Cioè non ho lavorato, no, diciamo, come intendiamo noi, con una busta paga. Ma non è che il lavoro è solo la busta paga. Lo so, non è questo. Allora lei non è disoccupato da 15 anni, ha fatto dei lavori, ma non da ragioniere. Ho lavori saltuari, ma non ho fatto più il mio mestiere. Lei non c'ha voglia di fare niente, diciamo la verità, Lello. È uno scansafatiche. Io sono uno... Se la prende comodo, su. Come dici, sono stato un ex playboy, sai, ero uno di quei laghi a Sorrento, pure lei, pure lei, eccetera, eccetera, capito? Ho vissuto un po' da cicala, diciamo, va? E adesso mi sta bene pure vivere da farmi. Sai perché ti ho scoperto? Perché sono senza corrente. Sì. E adesso, una volta, diciamo, io vedevo solo la televisione, adesso invece mi sono attaccata a una piccola radio. Ma pure, non ho capito, ma pure lei gli hanno, ma pure a lei gli hanno tagliato la corrente? Sì, mi hanno tagliato la corrente, però non è che me l'hanno tagliato, cioè io sono in conflitto con l'Enel. Vabbè, ma lei ce l'ha... Non è che, cioè io le volevo avere potuto pagare, proprio, però... Lei è proprio il classico prototipo di scansafatiche, cioè proprio quello. Sì, poi vabbè, se ti fa piacere, diciamo che. Ma quello che si arrangia, che non. Che gli però danno... ti dico una cosa, sono stato a Padova a lavorare. Sì. Sì, ho lavorato per la CNT di Padova. Cioè, sono stato l'unico che sono venuti vicino a me e mi hanno detto, signor Di Rosa, che io mi sono rotto i coglioni dopo 6 anni. Te credo. Sì, loro sono dicendo, signor Di Rosa, lei qualsiasi giorno decide di salire qua di nuovo a Padova, lei viene a lavorare da noi, non ci sono problemi. E allora? Perché loro non credevano che io sapessi fare tante cose, cioè, capito, no? Cioè, perché a Napoli diciamo la vita è un po' diversa, un po' più complicata e più elastica, ti permette di... Vabbè, Lello, ti saluto cose. Adesso. Molti ci segnalano che quel testo apocalittico che è stato recitato da Piacentini in realtà è una poesia di Bukowski. Va benissimo, ma non è che bisogna per forza fare delle cose originali, eh? Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Cruciani va a fa' culo, stronzo e Cruciani. Franco da Roma, buonasera Franco. Oh Cruciani, come va? Tutte le vacanze andate bene? Ma che te frega te? Come che me frega? Cioè, che te ne importa, ragazzi? No, bene, volevo domandarti se ti ha mai pizzicato una zanzara sulla punta della lingua. Sì, vabbè, qual è la metafora? Qual è la, metafora? Qual è la, come dire, la geniale idea che ha portato Franco da Roma a chiamare? Sentiamo. Ma la idea che guarda, vorrei tanto incontrarti, no? Ma non succederà. Per dire, questo. Ma come cazzo fai? Non accadrà. A offendere la gente. Ma chi ha offeso? A lei che sta. Sei tu che mi stai offendendo. Ma come sta? Sei tu che mi stai offendendo. Non offendi nessuno. Ma io non ho detto questo, Franco. Fai quello che ti pare. Non è che, sì, quello sì, faccio quello che mi pare. Allora? Ma come allora? Allora poi c'è la legge, ovviamente, no? Ma chi sei tu? Ma che vuol dire chi sono? Ma chi è che sta ridendo sotto? Ma no, sto vedendo la televisione, sto vedendo quattro sorsorie di Festival di Venezia, no? Beh, con le zin di fuori. E che vuoi da me? Capito? No, per dite sopra. Ma no? Chi se ne frega che stai vedendo quattro zozzone al Festival di Venezia con le zin di fuori? Ma tu sei completamente andato, sei pazzo totale. Cioè. No, pazzo ci sei tu, no io. Vabbè, Franco, dai. Quanto ti vorrei conoscere, guarda. Ma non accadrà questo, Franco. Ma sentimi un attimo. Ma non accadrà. Ma sono tifoso Risa e Canzoni. Sì, ma perché tu leggi. Ma perché ci metti una foto tua? Una foto tua con una zanzara ma tu sei completamente pazzo, una foto con una zanzara sulla punta della lingua. Ma tu sei ma tu sei completamente fuori di testa, ma dovresti veramente farti curare. Fuori di testa. Tu dovresti veramente farti curare seriamente, No, fatte cura tu. Dovresti farti curare. Capito? Ma molto seriamente, molto seriamente. Rispondi, fa quello che l'altro io rispondo, chi sei? A quello di vabbè, qua. Vabbè, Franco. Ciao, ci sentiamo, ciao. Eccoci qui, buonasera Pippo Civati, deputato del Partito Democratico. Buonasera. Allora, vediamo un attimo se riesco a beccare Parenzo, così facciamo questa dannata intervista. No, mica dannata per lei, perché Parenzo oggi è introvabile perché c'ha le cose ebraiche, sa, quello è fissato con queste cose. Sentiamo un po'. Vai col telefono, oggi è un inseguimento, l'inseguimento di Parenzo, ma me la paga, me la paga. Poi Civati è sempre sfigato, capita sempre in queste giornate in cui c'è Parenzo traballante, Parenzo tra un tram e l'altro, Parenzo che non c'è. È come il governo, però. Sì, Parenzo è l'emblema del governo, insomma, la precarietà, ecco. Quindi vai a cercarne un altro. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Ma intanto non lo becco. Civati, ma lei continua a essere candidato alla segreteria del Partito Democratico? Perché qui l'altro giorno Fioroni ha detto che l'80% del partito è con Renzi e dunque c'è un solo candidato. Praticamente la corsa è finita. Ma quando mai Fioroni ha azzeccato una previsione? Ha perso gli ultimi congressi, quindi non credo che sia la persona da ascoltare in questo campo. Cioè non è vero, che l'80% del partito è con Renzi. No, la partita non è ancora incominciata. Io sono fiducioso, sono a Firenze, ripeto, e mi candido, quindi senza essere ostile a nessuno, ma con una mia idea. Cioè, per cui resta candidato alla segreteria nonostante questi bagni di folla di Renzi sono veri oppure c'è un po' di oppure porta la clac? No, sono veri, ma i bagni di folla li faccio anch'io, sono meno noti, ma ho la fortuna di avere sempre una platea molto grande davanti tutte le sere, almeno è successo puntualmente quest'estate, è successo anche ieri sera, immagino anche questa sera a Firenze capiterà la stessa cosa. Un attimo solo che becchiamo Parenzo forse. Chi è? Pronto? Sì, qua, ma il telefono. Ma quale telefono? Ti ho detto che oggi non posso, a meno che proprio non ti ho detto. Oggi è la giornata del inizio del Capodanno ebraico, ci vuole rispetto, lo ha detto anche il ministro Kionch, lo dicono da destra, da sinistra, dal centro, una volta che ti ho detto, ma il 25 di dicembre, voglio dire, sì. Tu sei qualcuno, ti chiami, ci vuoi dire fare la radio, cioè, no, guardi, il 25 di dicembre. No, il 25 di dicembre, se ci fosse la trasmissione io la farei, e comunque alla gente che è all'ascolto, i tantissimi ascoltatori della Zanzara che aumentano sempre di più, sono della Zanzara, se ne fottono, io lo dico ma con rispetto. Ma io me ne frego della gente. Ma no, i tuoi ascoltatori, quelli che ti danno il danaro, comunque lasciamo perdere questo argomento che abbiamo già litigato a lungo sui giornali, anche su questa cosa. Io lavoro sempre, mi dicessero di lavorare il 25 dicembre, lavorerei il 25 dicembre, perché me ne frego anche del 25 dicembre, sono così, ma che vuoi? Valori. Sì, sono ateo, allora sono ateo. Dunque. Senza valori. senza valori. Vabbè, intanto saluta Pippo Civati, per favore, grazie. Ah, signor Civati, segretario del partito. Ma non è il segretario, è candidato alla segreteria, già gli ha portato una sfiga tremenda. No, vabbè, ma insomma è uno di quelli che ha più chance, no? Ma no, chance, preferisco sì. avere l'endorsement di Parenzo rispetto a quello di Fioroni, mettiamo. Però scusi, a proposito di questa roba qui, no? Fioroni. A proposito di questa roba qui. Sono fiori grandi, no, Fioroni? Fioroni, no. Fiori un po' grandi, sì, effettivamente lui è abbastanza grossetto. Però big flowers, se volessimo, perché noi traduciamo sempre in inglese, no? Sì. Se big flower. Ma quello era, no? White flower con la biancofiori. Senti un attimo, senti un attimo, ci va. Problemi con i fiori io ultimamente. Sì, una volta la biancofiore, ma anche con fioroni adesso. Scusi un attimo, non fioroni, ma opere di bene, potremmo dire, no? Potrebbe essere uno slogan fantastico per il congresso. Scusi un attimo, Civati, ma non le sembra che ci sia un po' una cosa che accade sempre poi in realtà nella politica italiana, forse anche nella vita, cioè questa corsa a salire sul carro del vincitore? C'è persone che avevano detto di Renzi le peggio cose, diciamolo tutta, cioè Franceschini anche, magari con toni diversi, chi gli aveva dato del fascista, chi del troppo berlusconiano, chi dell'irruento, chi dell'arrogante, eccetera eccetera, che adesso invece sono tutti con Renzi. Sono seri, sono molto seri, rigorosi, mantengono una posizione, per quello che continuano a votarci entusiasticamente tutti quanti vinciamo le elezioni, perché abbiamo una classe dirigente che tiene la posizione, che è orgogliosa delle proprie convinzioni. Il migliore è Franceschini, che a Puglia aveva detto ci vuole un congresso chiuso, non aperto agli elettori, per scegliere solo il segretario, perché il premier ce l'abbiamo già, e adesso sta con Renzi che notoriamente vuole primarie aperte e corre per fare di fatto, no? Poi sicuramente sì. Cioè confuso, come lo possiamo definire Franceschini? Un po' confuso, un po'... No, è molto astuto, infatti siamo talmente astuti che avevamo promesso di non fare mai una cosa, l'abbiamo puntualmente fatta e stiamo andando avanti navigando a vista da qualche mese. Cioè è uno di quelli, adesso per usare un termine renziano, uno di quei dirigenti Franceschini da rottamare, fosse per lei? Non lo so, questo Renzi lo diceva, lo chiamava il vice disastro, non so se lo rinnoverà questo giudizio. Il vice disastro, quindi, è vero, sì. Il vice disastro, sì. Però scusi un attimo, Parenzo, ma qualche parola in più su questo atteggiamento di Franceschini va detta da parte di Civati, no Parenzo? Non riesco, infatti questo che non riesco a capire, cioè, ma possiamo dire che è stato un po' paraguru anche in questa fase a spostarsi subito lì su posizioni renziane, un po'. No, è stato paraguru. Paraguru va bene. Paraguru va bene, paraguru. Paraguru va bene. Cioè, vuol dire, alla fine l'obiettivo qual è? Quello di restare un po' lì, attaccato un po' alla poltrona da ministro il più possibile e pensare che ormai è salire sul carro di quello che è considerato il nuovo, no? Il nuovo kingmaker del Partito Democratico. Cioè, questo è l'obiettivo di Franceschini, o no? Ripeto, io diffido, come dire, di queste persone che cambiano idea in questo modo così anche ridicolo per certi versi, perché ripeto, Franceschini ha preso una posizione durissima contro il congresso aperto, ma veramente qualche settimana fa. Sì, lo ricordo. Franceschini ha sempre teorizzato cose molto più nette nell'alternanza, a me pare che vogliano fare le larghe intese che ci sono al governo anche nel partito. Larghe, ma lo stesso Renzi, anche sì. Renzi, sì, larghe intese anche nel partito, anche con chi magari prima si litigava. A proposito, ma questi nomi sono ancora non sono usciti fuori, lei aveva detto prima o poi usciranno fuori, niente? No, resistono, poi magari si dividono il congresso, no? Alcuni 50-101esimi andranno con uno e 51 con l'altro. Ma Fioroni è tra questi? Fioroni è tra questi, secondo lei? Fioroni ha fatto la foto alla scheda, però era molto arrabbiato per Marini, no? Ci ricordiamo tutti quella fase, non lo so. Io i nomi non li faccio sui 101. Dico che però bisogna rompere con quella consuetudine e posso garantire che con me in quei 101 non ci sarà nessuno. Con chi stanno questi 101? Con Renzi? Ma insomma si dividono con chi è considerato più forte anche dai giornali, no? Che con questa lettura tutta interna, per cui Renzi, Franceschini, Fioroni da una parte, l'altra, D'Alema e Bersani hanno fatto la pace, sono momenti importanti, love boat, e quindi si sono messi d'accordo e sosterranno Cuperlo. A proposito, Bersani secondo Renzi era un po' spompo durante le elezioni, ha letto, sì. sì, devo dire la verità che questa mattina mi hanno fatto un'intervista sulla bandana di Renzi che non era una bandana. Se potessimo cambiare domande, lo dico sorridendo, non per prendervi in giro. No, insomma, Bersani Spompo, la bandana di Renzi, vabbè, la bandana di Renzi la vogliamo commentare? Un po' ironia come quella di Berlusconi, vabbè. Vabbè, ma quella di Berlusconi. Lei non si è mai messa una bandana in testa. Quella è una stupidaggine. Era un fuori onda di Renzi, era una battuta ai militanti, io non ci farei su una polemica. Renzi era l'avversario di Bersani, ha perso in quella stessa dichiarazione, dice di aver perso. Insomma, vorrei confrontarmi con Renzi, magari su posizioni molto lontane, ma non su queste cose. Senta, ma anche Repubblica mi sembra che sia, no? Sia salita sul carro del vincitore dopo aver avversato Renzi in maniera, anche attraverso il suo editore principale, no? Sì, no, loro si sono schierati, ormai è un giorno, è Renzubblica. Ecco, Renzubblica non è male, Renzubblica. Anche qui con una giravolta di 360 gradi, lei ricorda quello che diceva Ingegnere De Benedetti su Renzi, sì, cioè, e anche Scalfari stesso, cioè, una cosa. Vabbè, comunque questo succede. Sì, però insomma, queste sono cose che capitano, il problema è che Repubblica è un giornale indipendente, fa quello che vuole, un politico forse dovrebbe mantenere... Sì. Un profilo un po' diverso. Senta una un cosa, ma se Napolitano graziasse, mettiamo un'ipotesi molto difficile assurda in questo momento, Napolitano grazie a Berlusconi, che tipo di presidente sarebbe secondo lei? Un presidente indegno? Ma io non credo che lo farebbe mai, proprio perché sarebbe un fatto di una assoluta gravità, insomma, per come verrebbe percepito da tutti i cittadini onesti che invece quando vengono condannati non hanno la grazia automatica. Ma se lo facesse sarebbe una cosa, sarebbe un presidente immediato. Non voglio neanche pensarci, non do dell'indegno a nessuno, ma sarebbe comunque un fatto di clamoroso, ecco, questo sì, epocale. E se qualcuno vota contro la decadenza di Berlusconi all'interno del Partito Democratico sarebbe da cacciare? No, farebbe esplodere il PD in mille pezzi, farebbe decadere il PD, io ci penserei bene, già con i 101 avevamo dato prova di follia perché alla fine di questo si è trattato di un disegno molto preciso e criminale, ma anche folle perché poi alla fine ha penalizzato tutti quanti quella cosa, insomma. Cioè, quindi sarebbe come rappresenta come il siluramento di Prodi, sarebbe la stessa, sì, sarebbe, cosa. Però sai, il postino suona sempre due volte, la seconda è l'ultima di solito. Io non voglio neanche immaginare che ci sia qualcuno che salvi Berlusconi, insomma, e che lo faccia nel segreto del voto segreto, e scusami il gioco di parole. Va bene, grazie Parenzo, ciao. Grazie a voi. Saluti, arrivederci a tutti. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla Zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco, mañana yo soy stanco. Pronto? Pronto? Ma Parenzo non c'è? È salito un attimo in casa, signor Cruciani. È salito Pino in casa? L'autista. Pino l'autista, ma lui non va col taxi? Sì, sì, solo che è salito un attimo su, non so, doveva prendere qualcosa. Però ho capito, ma il cellulare. Sì, no, ma adesso lo chiamo. Ma scusi un attimo, Pino, ma lui non usa il taxi, si fa venire a prendere dall'autista, cosa? Ma non è un'auto blu, è come un taxi. Beh, ho capito, però lui c'ha il taxi personale, cioè chiama qualcuno. Siamo conosciuti quando sono venuto con Venditti, ci siamo conosciuti. Ma i nostri amici tassisti, ma scusi, ma saranno incazzati neri perché noi siamo amici dei tassisti, adesso si viene a scoprire. No, ma ci mancherebbe, io ho i parenti addirittura tassisti, nessun problema. Cioè, no, diciamola tutta, Parenzo ogni volta che arriva alla Fiumicino chiama invece dei tassi normali, chiama il signor Pino, sì. Giusto? Sì, vabbè, però prende tantissime volte i taxi. No, ma lo so che prende tanti taxi, però insomma, signor Pino. Sono tutti amici, non c'è nessun problema. Io ho 5 zii, due cugini e pure un cognato. Che tutti tassisti, tutti tassisti. Sì, quindi non c'è nessuna. Non c'è nessun problema. Gelosia. No, però. Si tratta bene. Eccolo qua. Si tratta bene, amico mio. La sinistra italiana invece di prendere taxi normali chiama l'autista. Grazie. Invece di prendere i taxi normali chiami l'autista, chiami l'autista, signor Pino. Invece di prendere i taxi normali, amico mio. Va bene, hai fatto il tuo show. Vabbè, quindi... Allora, t'ho richiamato perché abbiamo con noi. Un clima crimine, se no capisci. No, un crimine del... non è... Capito, no. Un signore che... Non ho capito. No, ma non è un crimine, non è un crimine, non è un crimine, certamente. Però precisiamo le cose. Invece di arrivare a Fiumicino e fare la fila al taxi e andare a prendere il taxi bianco, come fanno tutti i cristiani... Tutti i cristiani, cosa accade? Che tu chiami prima, mi vieni a prendere all'aeroporto, Pino, mi vieni a prendere all'aeroporto? C'è poco da ridere, c'è cioè, Pino entra sempre, bravi, uno dei più bravi autisti, ma c'è nessuno da ridere, no, perché adesso, perché ho capito, Bertino, c'è una notizia, non ho capito, ma io non, cioè io non capisco la polemica. Ma non c'è perché, polemica, no? E sei tu che sei imbarazzato, non c'è polemica infatti, però precisiamo le cose come stanno. Quando tu arrivi all'aeroporto, invece di andare là dove c'è la stazione dei taxi a fare la fila normale, a prendere il taxi, così chiami prima l'autista, vabbè, ma va bene, cioè basta sapere. Lì fa la fila con i taxi, sudano, no? Ma fa la fila, non vuoi sudare mentre fai la fila con i taxi, è una cosa pazzesca. Lì si suda con tutta la gente. La sinistra italiana, una cosa pazzesca. Vabbè, abbiamo con noi però un grande ritorno alla Zanzara. Beppe... Io devo chiudere, però. Aspetta, veramente. Beppe Bigazzi, buonasera. Buonasera. Come sta? Straordinariamente bene, come sempre. Ma lei prende i taxi normali o prende l'autista quando arriva all'aeroporto? Io viaggio in metropolitana e pullman. Ho capito, cioè, non prende... Quando non c'è, viaggio con mia moglie che mi fa da autista. Ma pure lei si tratta bene però, da un certo punto di vista. No, cioè... mi tratto bene, la necessità. Ma non ha, scusi, non ha la patente? Come... Lei come Parenzo non ha la patente? Io ce l'avevo la patente, ho fatto anche diverse mille miglia e altre corse. Ma quando ho raggiunto i 75 anni, cioè 5 anni fa, mia moglie mi ha tolto la patente. E ha fatto bene, forse, o no? È stata una scelta saggia, come sempre. Hai capito, Parenzo? Però la patente lui ce l'aveva. Colgo l'occasione per annunciare a te e a questo signore, tal Fugazzini, come si chiama? No, ma che Fugazzini? Qui è Beppe Bigazzi, un grande gastronomo, conduttore. Ah, il compagno Bigazzi, ma gastronomo. Ma quello torna alla Rai adesso, alla prova del cuoco, dopo quella assurda... Sì, no, ma è una persona eccellente. A lui e a Radio Ascoltatori che il 4 di ottobre, sì. Il 4 ottobre, dalla mattina, perché pomeriggio c'era, io sosterrò l'esame di... teoria. Oh, ma questa è una grande notizia che diamo. Questo lo possiamo dare in esclusiva. Urbi e Tordi. Non l'ho voluta dare oggi al signor Pier Silvio, al signor Crippa e tutta quella banda pratica lì. No, ma questa è una grandissima notizia. Questa è una grande notizia. Allora, il 4 ottobre, David Parenzo, spero nelle ore mattutine, ovviamente. 4 ottobre, nelle ore mattutine, ci sarà una sessione. Potremmo collegarci anche da lì, forse. Beh, no, direi che di fare una registrata, assolutamente, una registrazione dell'esame di guida di David Parenzo. L'esame di, di teoria. Ah, di teoria. Tu registra tutto, vai là con il registratore, registra tutto, così te bocciano poi. Il 4 di ottobre. Il 4 di ottobre. Benissimo. Allora, signor Bigazzi, ma dove stai, Parenzo, che si sente un casino tra me? C'è un'assemblea in macchina, che ride. C'è gente che ride sull'esame della patente. Comunque, andiamo avanti, che devo chiudere qua. Sì, un attimo solo. Allora, Bigazzi, scusi un attimo, ma è vero che lei torna alla prova del cuoco? Ecco, sì, mi hanno detto, ho firmato anche il contratto. Per cui è fatto ormai, no? Sicuramente. Quanto si guadagna a fare la prova del cuoco? Scusi, non mi voglio fare i cazzi suoi, siamo Bigazzi, però così. Si guadagna delle cifre pazzesche. Cioè lei guadagna proprio come un, cioè diventa milionario, no? Adesso sto scherzando, ma quanto si guadagna sul serio? Ma direi un pochino di più, un pochino di più di quelli che vengono e che si chiamano, che sono pagati per stare a sedere e applaudire. Ah, delle comparse, dice, delle... No, comparse, non sono comparse. Delle comparse, dei figuranti, là. Dei cosiddetti ospiti. Gli ospiti, no, il pubblico. Il pubblico, sì. Il pubblico, ma quelli sono pagati 4 euro, pochissimo sono pagati. Mi sembra 50 euro, perché 4? Ma è 4 per modo di dire, dai, cioè... scusi, ma lei ha pagato pochissimo, ma quanto le daranno? 100 euro a puntata, ma non ci credo. No, mi danno di più, ma non è, ma il discorso non è... Ma lo so che non è quello il discorso. Il discorso non è questo. Io lavoravo per guadagnare quando lavoravo. Adesso è un divertimento. Comunque le danno pochissimo, su, diciamo la verità. Comunque chi se ne frega, 80 anni uno se ne può anche fottere, no? Sì, specialmente se uno nella vita poi aveva fatto quello che ho fatto io, se ne può anche fottere. Perché certo, ha accumulato denaro, insomma, in maniera cospicua. Miliardi. Miliardi. Miliardi di euro, Vabbè, di euro, di vecchie lire. Scusi un attimo, ma insomma, io non vorrei tornare sulla solita polemica, però purtroppo a quello siamo. Io lo sa che sono dalla parte sua, perché fui massacrato, e dico massacrato, te lo ricordi, Parenzo? Fui massacrato. Siamo stati massacrati quando abbiamo difeso il diritto di Bigazzi di parlare, non di di sostenere che è giusto mangiasse i gatti o i cani, ma di parlare di quell'argomento lì da un punto di vista storico. Lei fu massacrato. Io ho ricordato, mi scusi, sì, in trasmissione io ho ricordato che sì, il giorno del Berlingaccio, l'ultimo di Carnevale, sì, c'è un proverbio del Valdarno, che Valdarno, provincia d'Arezzo, che dice: Berlingaccio, chi una ciccia ammazza il gatto. Sì. Di la cosa, la, come si chiama, la presentatrice mi disse: ma te l'ha mangiato? Certo, negli anni 30, quando ero bambino, ragazzino, a Terranova Bracciolini, in campagna, si mangiava il gatto. Sì. Era buono, come tutte le cose che cucinava la mia mamma. Ma ecco, lei questo disse, e fu ecco massacrato qua dagli animalisti. Per 3 anni e mezzo, niente Rai. Sì, ma voglio dire, ho fatto altre cose. No, sì, ha lavorato a Sky, per carità. Che... Parenzo, scusa un attimo, tu devi sapere, David, che io in realtà una volta ho mangiato il cane. Ho mangiato, sì, lo voglio confessare, l'ho già detto, ma vergogna, la gente... Ma perché? Ma non è appartenente. Ma no, aspetta, ti devo... Ma no, ma che me ne frega che non appartiene alla cultura occidentale? Io sono stato una volta in Corea e ho mangiato il cane, Ma non sono un criminale, sono andato lì per fare un servizio giornalistico, all'epoca facevo i servizi giornalistici, cosa che non farei mai più oggi, e sono andato in un mercato dove la tradizione era quella di mangiare la carne di cane, c'erano tutti questi cani... Ecco perché sei ridotto così. No, c'erano tutti questi... È successo... Cioè, soprattutto c'è una spiegazione, ecco perché ti sei ridotto in questo modo. No, ma ti spiego, perché c'erano tutti questi cani appesi era al mercato. Era un cane con la rabbia, era quello che... No, era un cane, credo, normale, non ho avuto... Non ha avuto conseguenze, però ho mangiato la carne di cane che era molto dolce. Lei ha mangiato la carne di cane, Bigazzi? No, ma ho mangiato di molto peggio per lavoro, quando lavoravo, per esempio, quando si firmò il contratto col governo cinese, sì, per la costruzione di un blending di lubrificante, ci fu un pranzo ufficiale. E io ero così felice che ero pronto a far salti mortali sulla tavola. Il ministro che stava mangiando la cosa, la zuppa di tartaruga, come stavo facendo io, prese la testa e la mangiò, mi guardò e gli dissi: è eccezionale, peccato io ce n'avessi solo 2 di teste. Mi fiovvero sul piatto una 10ina di teste di tartaruga e me le dovetti mangiare tutte con gli ossicini. Vabbè, ma le tartarughe, a te, lei si è mangiato le teste di tartarughe? Che ci devo fare? La tartaruga, io sai. Ma oggi, ma oggi lei è un gatto? Non sono un razzista, per me il mondo è fatto di uomini e di donne, non è fatto di bianchi, di neri, di gialli, di verdi, eccetera. E lo stesso per gli animali, ma perché si deve dire il coniglio sì e quest'altro no? Cioè, agli per animali cui... bisogna voler bene a tutti, per ci cui... sono tradizioni, certo, quando uno li mangia non li deve far soffrire nell'ammazzare, e soprattutto questo fu quello che fece fare quella velenosa intervista a quella poveretta, sì, del presidente dell'Associazione Nazionale Protezione Animali, perché io l'avevo presa in giro un giorno, ma lei c'è stata a vedere un allevamento intensivo di polli? Un allevamento intensivo, certo, di, certo, maiali? Vabbè, quelli sono contro anche gli allevamenti intensivi, Quelli sono contro anche queste cose. Ma scusi un attimo, dunque, secondo lei è giusto che in alcuni paesi... No, ma non è questo il discorso. No, però lei scusi... doveva chiudere. Sì, però scusi un attimo, Bigazzi. Dunque, lei mi sta dicendo che lei trova normale che in alcuni paesi si mangiano i cani, i gatti, cose di questo tipo? No, io non lo trovo normale. Beh, lei sta dicendo che bisogna rispettare le tradizioni, ora, ma... No, per me una, oggi che c'è da mangiare... Oggi che la cultura si è... Oggi no, ma no per noi. Ma gli inglesi, quando vedono gli italiani mangiare conigli, Ma questi si rivoltano, a volte no, però ho capito, per noi lei dice di no, e per gli altri è legittimo? Se in alcune società... No, io non sono un relativista in questo modo. Ah. Dico solamente che per quello che mi riguarda, io sto attento a mangiare quello che non distrugge le specie. Non mangio il pesce spada, non mangio il tonno, non mangio tanti pesci che stanno scomparendo. Senta una cosa, per concludere, Migazzi, ma lei che ha quasi 80 anni... quasi... Ho 80 anni. Ne ho 81, 81. Il prossimo 20 gennaio. Benissimo, lo capisce un amore tra un uomo di 76 anni e una di 28 come Berlusconi, sì o no? Non ho capito. Lo capisce un amore? Può esistere amore tra una donna di 28 anni come la Pascale e Berlusconi che ne ha 76? Beh, ce n'è di peggio. Beh, di peggio adesso. No, ma ce n'è di peggio, ma sono fatti loro. No, ma secondo lei se può esistere... Allora, a me mi sembra che la differenza d'età fra me e la mia moglie sia troppa. Cioè, quanti anni... Io ho sempre amato le donne anziane, e ci posso fare? Cioè, scusi, se a lui piace le giovani, se le può permettere, se le permetta. La ringrazio, a presto. Grazie, grazie a Beppe Migazzi, grazie. David? Arrivederci. Ciao, caro. Ma Parenzo, lo pagate voi questa retrasmissione? Strade in diretta. Sulla 4 Torino-Milano, 1,5 km di coda tra Arluno e Novara Est verso Torino. Si transita su una sola corsia per consentire il recupero di un camion che ha preso fuoco. Sulla resto della rete autostradale la circolazione è adesso scorrevole. Ricordiamo che questa sera a Roma, dopo la pausa estiva, vengono riattivate le zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo. Il divieto va dalle 21:30 alle 3. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora. La Zanzara. There must be. Siamo qui, Stefano da Latina, buonasera, 800 24 00 24. Voglio una grande conclusione, abbiamo ancora un po' di minuti, vai. Allora, Stefano, io chiamo per raccontare la barzelletta da Ridonessa, no? Allora a un certo punto c'è stava un topo che decide di andare a Mignotte, fa una strada che conosci, che era frequentata tutte le strade. Vabbè, aspetta, riprendiamo dall'inizio. No, Stefano, oddio, mi senti o no? Allora, riprendiamo dall'inizio e raccontiamo bene sta barzelletta. Io voglio la barzelletta originale, non voglio la barzelletta soft, vai. Allora, c'è stato dopo che decide di andare a puttane. E va in una strada frequentata, questa per la prima, la bella pantera, dice: senti, quanto vuoi per scopare? Quella dice: senti, vale 30.000 lire. Ma come 30.000 lire? Fammi uno sconto, no? Ma quanto c'hai? Io ho 1.000 lire. Dice: no, 1.000 lire, lascia aperte. Allora, insomma, va più avanti, viene a girare, dice: senti, quanto vuoi? Cioè, guarda, io ho 20.000 lire, ma che, non vuoi fare uno sconto? Cioè, no, guarda, posso arrivare a 15? No, io ho solo 1.000 lire. Cioè, guarda, senti, guarda, più avanti, qua, 10 metri, c'è sta una bidonessa, che è un po' anziana, però ancora va bene, quindi con 1.000 lire vai sicuro. Allora questo arriva, bussa, non fa in tempo a bussare, questa apre la porta, la bidonessa viene sotto dopo e se lo magna. La giraffa, che aveva visto tutto quanto, corre subito, bussa e dice: oh, ma che hai fatto? Come hai fatto? Ma come, te porti i clienti e tu ti rimani? Ah, quel topo era un cliente? Sì, allora, vabbè, dai, forse sta ancora con lo digerino. Allora incomincio, la giraffa incomincia con la zappa, mi metto a bocca di paura, insomma, riesco a piastro dopo esce e fa: oh, vabbè che non lo pesco da, mandiamoci piano con questi bocchini. È così, questa non è male. Stefano, grazie. Franco da Milano, buonasera Franco. Pronto. Dica. Belli i bocchini, eh. Oh. Oh. Ma vattene a zappa la sera. Sì. Con quell'altro stronzone. Ma dove l'ha mandato quell'altro? Sta al Capodanno ebraico. A che? Al Capodanno ebraico. Ah, perché lui è ebreo? Beh, qual è il problema, scusi? No, ma io domando. Perché? Ma che domanda lei? È ebreo. Vabbè, ma che vuole? Io rispetto. Come ma che rispetto vuole lei? Tu? Perché ha chiamato quell'altro stronzone lì? Perché ha chiamato? Mi ma dica... perché? Ma mo te metti pure a trasmettere le barzellette erotiche Pepe Radio. Oh. Ma mica l'ho detto io, eh. Ma vattene a zappa la terra, ma cammina. Stai tranquillo. Ma stai... cammina. Ma pianta perché c'hai un microfono in mano. Sì. Ma che, ma io dico, ma vattene a zappa la terra. Ma che è sta cosa, vattene a zappare la terra? Gli ho fatto un bucio di culo. A chi? Beh, io da solo per guadagnarmi. E che me ne frega a me? Sordi. Tu c'hai un microfono in mano. E allora? E allora? E tutto il pomeriggio, la sera, ti metti a dire, ma fa quello che è. Che problemi hai? Che ti dà fastidio? Che problemi hai? Che ti dà fastidio? Ma la zappa la terra. No, io la terra non la zappo, al massimo la zappi tu la terra. Ma io ho zappato la terra, ma con la zappa, ma te la farei vedere, io la zappa grossa. E perché? Quella di 40 centimetri per 80. E che vuoi da me? E che vuoi da me? Ti metti pure a chiamare i preti. I preti ti metti a chiamare. E allora? E allora? Ma tu sei, allora? Tu sei, ma da... cose, ma qui stanno a bombardare il mondo e tu ti metti a chiamare quello Stefano, quello stronzo che si mette a dire le barzellette erotiche. Qui ci stanno a bombardare. Ma te ti bombarda, ma tu sei bombardato, mica io. Ma, vabbè, da, chiamiamo, ma va. Tu sei bombardato. Vattene a zappare. A cosa? A provincia di Ceccano, di Frosinone. Sì. Che sta in campo lì. Te patate, te statuto, va, se tu mi vieni a trovare, io ti faccio tra una zappa 40 per 80, a te e a quell'altro, sì. Ma il microfono me lo metto io, sì. Me lo metto io il microfono, ma come dico io però. E dove lo metti questo microfono, Franco? Me la sapete. Ma che paura, ma che paura, ma che paura. Ma non va... Ma non famo battuto, meno me, dimmi che la ma guarda che te. Guarda che lei si sta sentendo male, eh. Io non mi sto sentendo, parlo così. Io ci parlo così perché sono un fumatore. Sì, sei un fumatore. Ah, capito, io non mi sto sentendo. Tu sei male. Bagato in testa, altro che. No, non di ste cose, sa. Non di ste cose perché a te dicevo la zappa per la testa tua. Sì. Capito? Vabbè. La zappa e la gravina. La conosci la gravina? Ma per fare cosa? No, non la conosco. E così vai a lavorare. No, a io lavorare. Non vado a lavorare, non vado a lavorare. Bello, stai bello comodo. Certo, no? Che sto comodo. Sì. Con il microfono in mano. E allora che ti dà fastidio? E allora, no, che la voglia. Ma pianene tu dei microfoni, tu e quell'altro. Vabbè, ma tu non hai una visitina mai l'hai fatta, eh? Mai. Io, no. Ma fatta la fatta una visitina. Mai, mai. Al cervello fatta la fatta. Mai, mai. Una bella visitina con la punturina a domani 18:30, ciao. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io peraltro sono una pitonessa e quindi non appartengo né ai falchi né alle colombe. Radio 24. La passione si sente.